Tu continui a dire porcheria, insulti tutti, interrompi, perché sei cafone nell'anima. Sei l'unico ebreo fascista che io ho conosciuto nella mia vita. Sei ebreo e fascista. Grazie Vittorio. Ciao, ciao, grazie, ciao. Senti, scusa, fammi dire un'ultima aspetta, dopo cosa. La pubblicità. Senti, però, dopo la pubblicità. No, no, subito. Dimmi. Dia a Parenzo andare a fare in culo. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Se non hai argomenti, stai zitto, pistolino. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Iniziate a lanciare il messaggio no al vaccino. Qualsiasi vaccino arriverà, soprattutto per un qualcosa che è poco più di un'influenza. Che voglia di cazzo, mamma mia. Questa non è la peste nera. Questa non uccide il 40% della popolazione. Mi mangio, vivi, mi mangio! È inutile star giù a cantare come dei matti a far tante cacciara! Sarò un polentone io! Ma voi proprio siete terroni! Porca di quella troia maiala! Ich reise viel, ich reise gern. Fern und nah, und nah und fern. Potremmo garantire all'Europa i porti italiani, gli aeroporti italiani, i palazzi italiani, i monumenti italiani, e no! Mi sembra che sia Mario Draghi, che Tremonti, che Cottarelli, che il professor Sapelli, tantissimi economisti hanno indicato la strada di dove trovare i soldi senza andare a infilarsi nel tunnel del MES. Se Conte lo farebbe, commetterebbe un atto di ostilità nei confronti degli italiani. Se Conte lo farebbe, commetterebbe un atto di ostilità nei confronti degli italiani. Se Conte lo farebbe. Non avete paura, che noi, la nostra Italia, scomperemo questo coronavirus. Da parte mia e noi ci vengeremo questa vittoria. Italia, Italia, Italia, Italia. Come on baby, l'altro reato che io ho sottoposto all'esame della procura, sì, è omicidio plurimo colposo. Pure. Ma scusi, ma roba da mandare in galera le persone? Cioè quello che ha fatto Mussolini praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui, perché? Avvocato, ma perché avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per no, gli scherzi cretini e di cattivo lo faccio stare zitto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Pronto. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden. Mi faccia parlare. Lo faccio stare zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Pronto. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Qui dal bunker di via Monterosa, sempre presenti, David Parenzo da Roma, applausi, applausi. Buonasera, buonasera cari amici, sempre tanti dal bunker, auguri a Boris Johnson per una pronta guarigione. Adesso? Cosa c'entra? No, ma certamente. Vedo su Twitter che stanno ironizzando, prendendolo in giro, augurandogli la morte. Ha commesso degli errori madornali Boris ma Johnson. Ma che ne sai che ha commesso errori madornali? Ma che ne sai tu? Disse che non è un problema il vaccino, da quello che disse pubblicamente. Ma che cazzo dice? Ma sei impazzito? Ma non ha detto questo. Che non è un problema il virus. Ma non è vero. All'inizio io ho stretto mani a chiunque. Come no? I primi giorni questo disse. Poi dopo disse immunità di gregge, moriranno gli anziani. Mai detto, mai detto. No, lui lo disse. È un falso. Comunque... Parenzo lui, dal i primi suo giorni. Bunker. No, no, ti sbagli. Parenzo auguri dal suo Johnson. Bunker costruito dal Mossad. Avanti tutto. in collegamento da Padova, da Radio Caffè, Alberto Gottardo, eccoci qui. Sì, auguro una pronta guarigione anche al ministro della sanità Yaakov Litzman, ministro della sanità israeliano, e alla sua moglie Chava. Sì, da sottolineare. In Veneto vuol dire un'altra cosa. Sì, che il ministro della sanità israeliano è un signore il quale ha detto, se non sbaglio, giusto Gottardo? Sì, dimmi tu. Ha detto che il coronavirus è una punizione nei confronti degli omosessuali. Capito? Questo è il punto. E non avrebbe, neanche rispettato le regole sul distanziamento sociale, così per dire. Vabbè ragazzi, è tornato questo Omarino di Padova. Omarino, no, è un Omarino, poverino. Omarino. Sei un... vai a vedere. Penso che non ti piacerà. Sei un Omarino. Ma cosa c'entra? No, no, perché mi guadagno dell'Omarino, no, Parenzo? Scusami, no, ho ricordato un fatto. No, ho ricordato un fatto. Morto di fame. Si può ricordare che il ministro della sanità israeliano non ha rispettato le regole che lui ha emanato. Sì. E ma io gli auguro. Ma è vero che è malato, grande e pronta guarigione. Assolutamente. Ma ci pronta guarigione. Tutti noi, ma ci mancherebbe. Ha detto una cazzata il ministro italiano, infatti. Allora, intanto c'è da Marino. C'è da tornare. C'è da registrare una cosa: che Sgarbi è tornato all'attacco. È tornato a combattere. Prima mandiamo Sgarbi, e poi, ragazzi, vi devo dire una cosa. Io non dico niente, perché i dati non li guardo. Non voglio dire nulla, silenzio assoluto, perché i dati spesso ti ingannano, non si sa quanti, se è frutto dei tamponi, bisogna guardare solo i ricoverati. Io non guardo i dati, però dai cazzo, non fate puttanate nelle prossimi giorni. L'esercito è modello De Luca, non fate puttanate, non pensate di uscire fuori, non pensate di fare puttanate, dai cazzo, porca puttana, seguite il comandante Massimo De Luca, seguite il generalissimo, seguite il governatore del mondo, non date retta a tutti gli altri. No, Vincenzo De Luca, dai. Punite severamente i criminali che se ne fottono. Pene ancora più dure dovrebbero fare. Nel prossimo mese, solamente nel prossimo mese, dovrebbero mettere pene più dure. Uno è protestato, si protesta perché una signora anziana è stata multata perché ha fatto la spesa 11 volte. Ma amica mia, questa ha dei problemi naturalmente, ma 11 volte a fare la spesa? Sei una criminale! 400 euro sono anche pochi rispetto alle persone che potresti infettare. È giusto punire queste persone qua. Quali 400 euro? 5.000 euro! Poi vediamo se vai a fare la spesa 11 volte. 5.000 euro ti dovrebbero dare. Ti dovrebbero togliere la pensione, a meno che non abbia dei problemi naturalmente. Ma se fai la spesa seriamente, spendi di più di 400 euro 11 volte. Dai, su, Sgarbi all'attacco, primo contro la Murgia, però quello lo sentiamo dopo. All'attacco è tornato sulle chiese, amico mio, però sulle chiese. Basta con questa rottura di coglione, già l'abbiamo parlato. Vuole aprire le chiese ancora. Pure lui all'attacco con le chiese, che te? Tenere chiusi i musei è un delitto, è inutile parlare di cultura a distanza. I musei, come le chiese, per quelli che credono, con tutti i limiti sanitari che valgono per i supermercati, devono essere aperti almeno come le vendite dei tabacchi, che sono invece aperte da sempre. Tenere chiuso un museo è un crimine contro l'umanità. Amico mio, però ai musei, allora io voglio dire a Vittorio che nei musei bisogna poi andarci fisicamente, cioè mentre tu vai a prendere le sigarette e te ne vai, nei musei stai un'ora, due ore, tre ore a seconda del museo, e stai insieme ad altre persone. Non è che possono aprire un museo in cui entra uno alla volta, no? Poi ci vogliono i custodi, ci vuole il personale di servizio, e come cazzo si fa? Dai, su, ma è ridicolo, dai. In bicicletta si può andare, non dicano di no, è una bugia. È Carlo. Una bugia che non sia, che sia sano stare chiusi in casa e non si possa andare in bicicletta o a piedi lungo una spiaggia. Non è tollerabile, sono misure illogiche. Anche qua, Vittorio, se uno dà il via libera alle passeggiate in bici o alle passeggiate in spiaggia, è la fine di tutto. È tutto finito. Abbiamo visto quello che succede se tu non dai regole chiare. Se tu non dai regole chiare e ferre, molto di più di quelle che ci sono adesso. E sanzioni. Regole e sanzioni. Purtroppo non basta. È così, ragazzi, è così. Non c'è niente da fare. È così. Poi magari il virus si ritira automaticamente, perché qualcuno può pensare che questi dati, di cui non voglio parlare, magari siano frutto semplicemente del fatto che il virus, no, si ammorbidisce, se ne va via da solo, eccetera, oppure frutto di quello che viene chiamato il lockdown. Non lo so, però non si può dire anche del fatto che ormai quelli che si dovevano contagiare si saranno anche contagiati. Sì, no? Va bene, questa è la tua teoria, va bene, d'accordo, però io non dico teoria, se tu hai deciso il lockdown, la chiusura, cazzo, ma la vuoi fare in maniera ferrea? La vuoi fare in maniera ferrea o no? Certo. Dai, cazzo. Rido perché sono sindaco anch'io. Io sono il sindaco della città santa, perché a Sutri non c'è un solo contagiato. Ma il dato di fatto è che hanno fatto 11.000 tamponi. Ah, okay. Se avessero fatto in Italia un tampone a cittadino, risulterebbe, come tu sai di te stesso, che sono non 150.000, ma sono 15 milioni quelli che hanno il coronavirus. È chiaro. Tutto meno che letale. Certo. Beh, adesso dicono alcuni dicono 15 milioni è una follia. 15 lo dice lui, lo dice 6 lui. Milioni, al massimo dicono 4, 6 milioni 6, e non è manco provato, cioè non è manco sicuro. 15 milioni, che è il triplo di quello ma che dice. Lo dice, ma lo dice lui, non lo dice nessuno che in Italia follia, ci infatti, sono 15 milioni. Fosse così, ci sarebbe una mortalità dello 0,00, cioè quasi nulla, no? Ma di che stiamo parlando, dai? Beh, angosciosa dal punto di vista psicologico, perché che i bambini non possano uscire contravviene le regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sempre detto di stare all'aperto, e stare all'aperto a distanza di un metro è sicuramente più sano che stare in un appartamento di 80 metri quadri in 5, di cui uno può trasmettere agli altri il coronavirus. Quindi sono leggi irragionevoli e non logiche. Tornato all'attacco, comunque, ragazzi, è tornato. La cosa fondamentale è questa: è tornato ad attaccare. Posso dire una cosina su cui forse ha ragione, non dico ha ragione in toto, però su una cosa ha ragione: l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io, ragazzi, vado ai matti. A parte che si è contraddetta 40 volte durante questa crisi, e prima diceva che non sarebbe stata pandemia, ha escluso ogni cosa, poi invece ha dovuto ammettere che, insomma, un casino tremendo anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'ultima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un'organizzazione che paga non so quanti soldi per lo stipendio dei suoi funzionari. Noi indirettamente paghiamo anche noi. Ci sono i migliori medici del mondo, ma chi lo dice? Chi lo sostiene? I migliori medici del mondo. Meno male che sono i migliori. Allora, oggi poi i migliori medici del mondo. Dimmi uno, sai come funziona? Aspetta, sai come funziona? Ragazzi, mi fate dire una cosa, state zitti un attimo. Allora, mi fate dire una cosa. Allora, oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre noi riceviamo già notizie contraddittorie qui in Italia, in più che cosa fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Dice che la mascherina può essere anche controproducente. Ora ditemi voi come uno deve prendere questa roba qui, mentre i cittadini vengono spinti, anzi si fa tutta una polemica sulle mascherine che non ci sono, gli appalti, e c'è un sindaco che si incazza dicendo addirittura che è una vergogna il fatto che vengono vendute a un prezzo superiore, e parla di mafia, eccetera eccetera. Tutti noi ci battiamo perché vengono distribuite le mascherine, ci dicono che è fondamentale, Borrelli prima dice una cosa, poi se la rimangia e dice sì, la indosserà pure lui. Alla fine il risultato è che i massimi organi della sanità mondiale ci dicono oggi che non è fondamentale, anzi può essere controproducente. Ma andate a fare in culo l'OMS. Beh, però è come i guanti, a fare in culo. Ma è come i guanti, ma dai, l'hanno ma spiegato, può, come dai, i guanti. Ma non hanno spiegato i guanti, un cazzo, dai. Possono essere più pericolosi se non li sai mettere e togliere, ma cosa, piuttosto che lavarsi detto le mani questo, spesso. Davide, non hanno non detto l'OMS. Questo l'hanno detto in Italia alcuni dei nostri italiani, che sui guanti. Ma non hanno detto guanti. Aspetta un attimo, ha fatto una storia alla Dursor. Fermi. La zanzara. Ciao ragazzi, Longoni mi ha detto che quando c'è lui riesco a chiamare. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Intanto il coglione brasiliano fa mettere storie, sta sempre in un posto diverso durante la quarantena. E mo sta fuori, e mo sta in macchina, e mo da un'altra parte. Non penso che pubblicizzare la rivendita di motorini o quello dei tatuaggi sia considerato un'attività, diciamo, primaria per il paese. Fun green, Vi giuro che io, se avessi una spranga e potessi uscire, vengo lì e spacco tutto. Spacco tutto! Come cazzo si fa a passare il traffico quando tutti devono stare in casa? Ma ora me lo dite che cazzo di utilità ha il traffico? E poi tanto è vero che quel coglione lì col microfono in mano dice: è scarso traffico in giro per l'Italia. Ma vaffanculo, va! Amici miei, cacciari. Senti. Stupendo, l'ho sentito. Senti. Come? Non stiamo a raccontare le primavere, gli italiani, che bravi gli italiani, ma sono bravi anche quelli italiani che vadano per complessivi 150 miliardi all'anno. Ma cos'è sta retorica degli italiani bravi, del grande popolo? Ma cos'è sta roba? Non se ne può più, è una questione drammatica e il paese va detta la verità. Bene questa manovra, benissimo questa manovra, ma questa manovra ce la dobbiamo pagare. Non è che il governo Conte sia bravo e ha trovato i 400 miliardi sotto il cavolo. Questi 400 miliardi vuol dire aumento del debito. Speriamo che l'Europa ci segua nelle indicazioni date da Draghi, non da Conte, da Draghi, e speriamo che gli vadano dietro, anche a quelli di Conte ovviamente, ma non ci vuole niente per sapere che bisogna che l'Europa appunto adotti politiche economiche e finanziarie completamente diverse dal passato, perché se non le adotta siamo alla catastrofe. Bisogna stare a casa, però non bisogna raccontare che bello stare a casa, è orribile stare a casa, per cui 9 milioni di persone che sono in povertà e aggiungiamoci un altro 10 milioni che insomma sono in condizioni parecchio modeste, essere costretti a stare a casa è un incubo. Allora perché dobbiamo raccontare state a casa, che è bello che stare a casa? Però scusi Cacciari, per lei è bello stare a casa, lei è circondato da volumi. Ma quale lei bello, ma quale stai a casa? Ma mi rompo i coglioni, una casa meravigliosa di 180 metri quadri a Milano, oppure calcio balilla, rifletto, guardo i libri, leggo Feuerbach, Kierkegaard, Kant, ma mi rompo i coglioni tutto il giorno a casa, mi telefonano, interviste, chiedono le solite cose, io sono 30 anni che lo dico, 30 anni che dico che vanno fatte le riforme, che mi hanno rotto i coglioni, ho governato Venezia, ho governato, ma che cosa di, che domande fate, mi invitate delle trasmissioni, mi stufo tutte le volte e vado via, ma tutte le volte mi chiedete le solite cose, sta a casa, dove va? E io ma vado via e me ne vado via, anche qui mi rompo i coglioni, mi invitate, mi chiedete, allora cosa pensa professore, inizio a parlare e poi sento lì in studio uno che dice ma un cordo, mi avete rotto i coglioni, io rimango a casa e leggo Feuerbach tutto il giorno. Ma lei è già a casa. E allora perché mi telefonate allora? Perché mi invitate? Ma tanto per lei che cambia, non cambia niente. Ma non per cambia lei. Assolutamente niente. Il suo reddito non cambia, è già. Ma non come, io sono un professore, sono stato senatore del Partito Comunista Italiano come indipendente, sono stato consigliere regionale, sono stato sindaco di Venezia, sono stato eurodeputato. Con un minimo di rischio, perché senza rischiare nulla non c'è vita, mi insegnano, con un minimo di rischio bisognerà che l'economia riprenda, questo è il realismo puro e semplice, non può un'economia, un paese, una società restare bloccata per mesi a casa, non può, crepa. Allora ragazzi, veniamo alla polemica che fa la Meloni. La Meloni fa due polemiche. Primo, perché non si prendono quelli con reddito di cittadinanza per lavorare nei campi. Cosa giusto, che non giusto. È del tutto sbagliata. Sentiamo. Giusto. Perché non possiamo usare, sto dicendo, quelli che perdono il reddito di cittadinanza per andare a portare la spesa agli anziani che non possono uscire di casa? Perché non li possiamo usare per dare una mano a lavorare nei campi volontariamente? Perché noi avremo un enorme problema nella raccolta agricola? E invece il ministro Bellanova vuole fare la sanatoria dei migranti, la sanatoria dei migranti, addirittura portare qui gente ancora da fuori per lavorare nei campi. Cioè, come, a parte che come cazzo fai a portarli adesso? Sanatoria, la sanatoria, portare, devi portare nessuno, devi fare la sanatoria con quelli che già ci sono qui, che attendono di avere dal, il nulla osta, e quindi a quelli, quelli devi sanare. Ma che vuol dire che adesso qua ci rendiamo conto di, ma che discorsi sono? Ma comunque sentiamo. Il punto è che adesso noi ci rendiamo conto di quanto siamo noi ad avere bisogno degli immigrati, perché il nord sta soffrendo. Nel nord c'erano tanti e tanti lavoratori e lavoratrici dell'est che venivano per le campagne di raccolta. Intanto ragazzi, certo, impazzano le persone in giro per l'Italia che se ne fottono delle disposizioni. Questo qua in Sardegna si chiama Secci. Sentite, sentite perché c'è una sorpresa, sentite Secci. Le sto chiedendo nome, cognome e numero di matricola. Lei è un pubblico ufficiale, ho diritto di riprendere e ho diritto di chiedere di esibirvi, perché la divisa la possono avere chiunque. Quindi, come da Costituzione, innanzitutto mi state violando i miei diritti. Sì, mi favorisce un documento. Sì, e seconda cosa, lei me lo fornisce il suo. Mi favorisce un documento. Lei me lo fornisce il suo. Ma le devo fornire nessun documento? Carlo Tornina ha visto, mi si stanno rifiutando di darmi. No, lei non è nessuno, se lei non si identifica, e glielo do se me lo dà. Cioè, questo qua dice di essere difeso da Carlo Taormina, questo Secci. Cioè, aiuto, di essere non porta bene. Non porta bene di solito. Bocca al lupo. Bocca al lupo. E le mani addosso lei non me le può mettere. Mi denuncio. E se non mi fanno, perché i tribunali sono sospesi. E io che ho vinto la causa. Ah, ok, allora non si avvicini neanche lì. Ok, non si avvicini neanche lì. No, non gliene do il documento se lei non si identifica. Glielo sto dicendo. Elia da Roma, che se non sbaglio è il nostro amico camionista molto molto fascista, Elia, molto molto fascista, signor Elia. Dimmi, che c'è, che succede, Elia? Pronto, pronto, buonasera a tutti, finalmente ho beccato a tutti e tre. Dimmi, Elia, dimmi. Io in alcune situazioni che ho fatto, che faccio lungo i miei lunghi viaggi, ho pensato questo, a parte come un vecchio messaggio che vi ho mandato, questo è un fatto. No, non ti sento bene, non ti sento bene, amico mio. Devi parlare meglio, da una posizione in cui si sente meglio, Lia. Guarda, io sto qua giù a casa, fermo, sto qua a casa io. Vabbè, dimmi, se che cosa hai pensato nei tuoi lunghi viaggi in camion, oltre al duce, oltre al duce, naturalmente. Non userei il termine pensare. No, ma come non ha Benito Mussolini, pure adesso. Non userei la parola pensare, il verbo pensare nel suo caso, non lo userei. Lei Parenzo parli quando pisciano le galline. No, ma non userei, ho detto non userei nel suo caso il termine pensare. Non lo userei. Scusami Elia, ma secondo te il Duce avrebbe risolto questa situazione in maniera più degna rispetto al governo italiano attuale? Ma guarda, certamente sì, sicuramente al mille per mille. Al mille per mille, benissimo. Questo è il pensiero di Elia da Roma. Che cosa hai spezzato le reni al virus? Che cosa hai pensato in questi lunghi viaggi in camion che fai? Guarda, allora, il primo, poco dopo che è iniziata questa pandemia, questo è un virus creato, fatto in Cina da un partito. La Cina è tutta assolutamente... Ma non è stato fatto, che vuol dire fatto da un partito? C'è cioè, un virus comunista fatto dal partito magari comunista cinese per fare cose lì? È messo in tutto il mondo, fatto apposta per eliminare le persone anziane. Perché mondo la vita si è allungata a tutti quanti e, allora? E sono in sofferenza a pagare le pensioni. Ma chi in Cina? Ma chi in Cina se ne fottono delle pensioni? Ma chi se ne frega in Cina delle pensioni? Ma in Cina se ne fottono delle pensioni in Cina? Ma scusa, ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Aspetta, un'altra cosa ti voglio dire. Dimmi, Alia, dimmi. Allora, muoiono il 70% di anziani, sbaglio. Vabbè, allora? Il fatto è questo, i medici, a chi dicono sta quasi obbligatorio fare i vaccini antinfluenzali? Ma che c'entra i vaccini? Che c'entrano i vaccini? Ma adesso è colpa dei vaccini pure. Tu pensaci. Ma che pensaci? Fermi tutti. La zanzara. Ma dell'erba! Qualcuno ha dell'erba! bisogno! Erba calabrese, produzione propria. Qualcuno dell'erba! Te, ti prego! Ne ho bisogno! C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Qualcuno dell'erba! Ne ho bisogno! Io ritengo che sia arrivato il momento per chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Italia! فإذا جند الله يدقهم دقا يدقهم دقا. I've been taking my time, slow going's nothing new to me. Cruciani, per piacere, fammi parlare con sto figlio di puttana. Just drop everything. Sì, io vedo molto negativo. Mi sveglio alle 8 invece che alle 7. Mi evito di stare in coda come un coglione mezz'ora tutti i giorni per andare in ufficio. Alle 9 operativo, smart working fino alle 18. Poi trombatina con la moglie. Poi zanzara alle 18.35. Cena, un telefilm, se ho ancora voglia un pizzico di Pornhub. Raga, ma dove cazzo bisogna firmare per stare così per tutto il 2020? No, è possibilissimo. Lucia, primo mese di quarantena, siamo passati all'erba legale. L'erba legale, Crucià, è la fine, è la fine. Legalizzatela! Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? A proposito di Spatalo, ci sono novità. Ci sono grosse novità pure. Spatalino, grosse novità. Questa è novità, questa è una grossa novità stasera. Allora, è tornato all'attacco. Andiamo avanti, Spatalino, vai, vai. Ma chi sei? Giuseppe Conte. Ancora. Tu non hai mai lavorato a Roma. Un modesto avvocato. È fortunato, non c'è niente da fare. Siccome lei le rogne se le va a cercare, signor Conte, ha attaccato l'altro giorno ancora Fontana, signor Giuseppe Conte. Veramente no, comunque. Ma di proprio la faccia ricorna vecchia. E poi incredibile, fa il tifo per l'avvocato Taormina e la sua denunzia. Spatalino, la combo Spatalino più Taormina. Ha una faccia tosta, non c'è niente da fare, è subdolo. Il bello che poi scarica sui governatori del nord. Io mi auguro solo una cosa, signor Giuseppe Conte, che lei ne possa rispondere in un'aula di tribunale. Forza, avvocato Taormina! Forza, Taormina! Taormina! Taormina! Perché faccio il tifo per l'avvocato Taormino? Perché quest'ultimo ha denunciato Conte e la sua banda di signorini. Poi incredibilmente, mentre chiaramente il TSO sarebbe, diciamo, praticamente necessario per questo signore, dice che il TSO va fatto a Conte. cioè, secondo lui, cioè... vabbè, poveretto. Quante responsabilità che ha Conte. Questo è impazzito. Un TSE obbligatorio. Giuseppe Conte, dovrai risponderne davanti a Dio e davanti ai giudici. Forza avvocato Taormina, forza avvocati che avete denunciato il governo di Giuseppe Conte. E va bene, io direi di andare a Daniele da Roma, vai Daniele, dimmi. Ciao Giuseppe, tanto ciao Dani. Mi segnalano che addirittura in Friuli un signore, un giovane, viene sorpreso a gironzolare con uno skateboard, si è rifiutato di farsi identificare, ha sputato su un finanziario in borghese in, Friuli, ed è stato portato in non caserma. Non a Napoli, no, in Friuli. Ma non è che queste cose succedono solo a Napoli, anzi probabilmente a Napoli non succedono neppure. A meno non è stato, cioè, una notizia del genere non è mai uscita. In Friuli un coglione ha fatto una cosa di questo tipo. Daniele, vai, dimmi. Rieccomi qui, ciao Giuseppe, ciao Davide, allora io volevo risponderti, perché allora ciao pure Alberto Gottardo, allora, perché tu ieri avevi detto che c'è qualcuno che vuole le chiese aperte, ti premetto che come tu sai le chiese sono aperte perché il Papa le ha fatte riaprire, comunque sono aperte. Hai detto, quando si parla di chiese aperte si parla di messa, eccetera, Io tu hai detto qualcuno, vorrei sentire qualcuno, e io sono uno di quelli, io vorrei la messa, chiaramente faccio una premessa, non una messa così che entrano tutti come pecoroni, se ci fosse un'organizzazione, capito, ragazzi, migliore, ma non si può fare, è inutile stare a discutere, non si può fare, hai perfettamente ragione, ma non si può fare, ma che vuol dire, non entro nemmeno, ma non puoi uscire da casa per andare in chiesa, non puoi uscire, va bene, ok, se devi solo dare un colpo, ma vuoi uscire dentro una bara fra un mese, o vuoi uscire a riabbracciare qualcuno, cazzo, per dire ti misurassero, hai ragione, ma se ti misurassero per dire la temperatura all'entrata, uno può fare un'organizzazione per l'Italia, ma ho capito Daniele, uno può fare un'organizzazione per far andare la gente a messa, con tutto il rispetto della gente che va a messa, per carità, ma uno non può mettersi in testa di fare un'organizzazione con la polizia o non so chi per far andare la gente a messa anche ma a Pasqua. Ma ti do ragione, e allora basta, dai, Franco, no, D'Ascoli, ricordo, no, basta, no. Franco D'Ascoli, vai Franco, dimmi. Dimmi Franco. Come il profumo. Sì, dimmi. Franco, dimmi tutto, Franco. Che è successo? Che è successo, Franco? Dimmi. Chi è? Come parli? Sono Cruciani, sì, certo. Che lucidità, Franco D'Ascoli. Onore a Cruci a Paro. Sì, Paro. In questo caso sta messo un po'... Onore. Che sostanze ha nel suo corpo questa persona? Sei sicuro che stai bene, Franco? Sì, benissimo. Poi quando sento la zanzara vado al massimo. Meno male. Questo ti dà l'idea. Comunque volevo parlare, posso? Sì, dimmi Franco, dimmi. Dell'argomento, qual è l'argomento? Che ho chiamato. Qual è l'argomento? Non lo so, dimmi. Dell'odore, del profumo, io lo chiamo profumo, dei piedi delle donne. Profumo dei piedi delle donne. Sì, e quando è stato affrontato? Io sono un feticista. Sì. Tu sei semplicemente fuori di te. Sono capitato da ragazzo, quasi come la tua stessa esperienza. Posso dire, Franco, che semplicemente sei fuori di testa. Posso dirti, cioè, non è che sei feticista. Anche, questo naturalmente. Sì, però volevo parlare anche di questo, delle mie esperienze. Sì, ma cosa hai preso stasera? Cioè, di cosa ti sei imbottito? Io sono annaturale così. Ma non sei annaturale, Franco. Non è possibile che tu sia annaturale così, altrimenti saresti semplicemente uno spostato. E io non voglio credere che tu sia uno spostato. Borderline. In che senso sei borderline? Magari strano che chiami qua seriamente borderline, magari incredibile. È seriamente Gottardo? È Gottardo. Sì, sono Gottardo. Io, sono io. Buongiorno, Gottardo, buonasera. È un piacere sentire la tua voce. Ti vedo tu. Dove? Su Memmense. Dove? Dove lo vedi, Gottardo? Dov'è che va? Sui siti porno? Sì, quello lo sappiamo. Sui siti. Tanti siti. Quali? Della zanzara. Quali sì? Ma questo qua è fuori di testa, Franco. Memmense. Sì, lei Paco. Paco, senta, ma lei ha usato o usa attualmente droghe leggere o pesanti, Franco? No. Niente, nessuna. Tu sei così annaturale? No. Incredibile. Ma tu sei borderline? Che sei? Sei borderline? Sì. No, ma dico, sei sotto cura? No, perché sotto cura? No, perché ha votato alle ultime elezioni, lei? Io perché ha votato alle ultime elezioni? Ho votato il partito delle buone maniere. Effettivamente si è presentato, però, esiste, esiste. L'abbiamo beccato. Però in passato ha votato per la Lega, mi diceva lei prima, mi pare. No, ho paro. No, no, e perché ha votato? Io non ho votato per la Lega. Io se voto, voto bene, voto a destra. Appunto, sì, ecco, appunto, appunto. Grazie, sì, grazie, sì, per non ho altre domande. Grazie. Ma la quarantena, scusa, come la sta passando, il signor Franco? Non voto a destra. No, nessuno. No, anzi, continui a parlare. No, anzi, continui a parlare, che mi interessa infatti, Franco, capire il suo pensiero. Quindi no, no, non mi porti su questo stesso piano, paro. Ma la quarantena, Franco, la come la sta passando? Qual è la sua giornata tipo? Qual è la sua giornata tipo, Franco? Sì, va. Allora, Gottardo, se parli così non ti risponde perché non ti sente. Mi sembra Franco, Franco, la sua giornata tipo durante questa quarantena, a parte ascoltare la Zanzara e chiamare la Zanzara, lei cosa fa durante il giorno? Io? Cammino. Sì. Ma dove cammini? Sì. Non si può camminare. Per strada, dove cammino? Ma non si può uscire da casa. Ma non adesso, in questi periodi di emergenza, camminavo. Ma tu l'odore dei piedi delle donne, l'ultima volta l'hai sentito? Quando l'hai sentito, amico mio? Passati un mese fa. Un mese fa, e quale odore sentivi? Quello delle mignotte? No, no, non solo. Non so, anche di ragazze. Ma io ho capito, però, però più che altro anche pagavo, perché mica mi vergogno a dirlo. No, vabbè, adesso sì, pagava, mi sembra abbastanza normale. Comunque, Franco, mi sembra che la situazione la situazione sia abbastanza grave, mi sembra, no? Cioè la situazione si sia aggravata. Chiama l'ambulanza, Crucio. No, l'ambulanza non c'è bisogno, amico mio, perché non chiami più, com'è? Ma perché? È una ghighina di qualche anno fa quella. Il mio è una ghighina di qualche anno fa quella. Una Davide da Torino, ciao anno. Amico mio, Davide da Torino. È ipnotico costui. Dimmi. Sì, sì, sì, sarei qui ad ascoltarlo per ore. Questo mi sembrava proprio un fake. No, no, che fake. No. Allora è fatto veramente bene, se non è fake. Dimmi, non è fake, ti dico che non è fake, non è fake. Dimmi, Davide. Okay. Ho sentito prima che comunque sia Parenzo che Cruciani sono d'accordo su che cosa? Su questo non uscire, non si deve uscire di casa. Non è che lo dico io. Ma non è che siamo d'accordo, che d'accordo. Perché siamo matti. No. Ma siamo d'accordo semplicemente perché, ragazzi, ma che cazzo dobbiamo fare? O uno sceglie una strada, oppure. Però c'è il lockdown è sacrosanto, la distanza è sacrosanta, le mascherine sono sacrosante. Allora? Però solo in Cina e in Italia si è fatto un lockdown così restrittivo. Che in Cina molto di più, assolutamente. Ma in Cina molto di più. In Cina. Fermo là, Davide, che ti riprendo. Fermo là che ti riprendo. La Zanzara. Sospetto che, come hanno fatto con Litvinenko, abbiano avvelenato il coronavirus anche Boris Johnson, perché era già guarito, Sacchi è malato, è peggiorato. Qui c'è la manina di Soros, Rothschild, Draghi, Monti, Bilderberg, Merkel e Macron, perché è andato fuori dall'Europa e questa è la punizione. Vuol dire che l'ammazzano? Io mi auguro di no, perché allora c'è la guerra europea, perché questa è gravissima, questa cosa. Faccio sempre il contrario di quello che dice il governo, perché il governo è colluso con gli ebrei sionisti. Se dice di stare a casa, vuol dire che dovresti andare fuori, perché vuol dire che stare a casa ci rimettessi voi, ci guadagnano loro. Ah, certo. Vai fuori. Se vi dicono invece di uscire, allora restate a casa. Vai. Invece fare sempre il contrario di quello, certo, che dice il governo. Questa è istigazione, però, istigazione. Perché se vi dice di fare una cosa, non è nel bene vostro, ma è nel male vostro. Questo. Ricordatevelo quello che vi dico. Sì, se un giorno morirò, ricordate sempre questo. Cosa? Il primo nemico che un cittadino italiano ha in Italia dal 67 adesso. Al 67? Perché il 67? Lo Stato. Perché? Lo Stato è il primo nemico del cittadino. Per combatterlo devi fare l'esatto opposto di quello che si dice di fare lui. Certo. È l'unico modo per salvarsi. Perché questi non sono governanti, no, questi sono piccoloni comandati a distanza da chi? Da lobby establishment. Lobby establishment, però sono due cose un po' lobby malato da Mantova, malato, no, mantenuto, da... mantenuto, da mantenuto da Mantova. 600 euro al mese questo qua gli, no, dà il governo di più, che lui contesta. 780, 600 euro al 780, mese. 780 ti segnalo, 780. Ma robe da pazzi, robe da pazzi. Se non li avesse, se non li avesse sarebbe ancora peggio se non li avesse, quindi. Ma la cosa incredibile è ma comunque è quasi istigazione, eh? È quasi istigazione a commettere un reato. Cioè Maurone dice dovete fare l'opposto di quello che dice il governo, cioè dire stare a casa. Lui dice bisogna fare l'opposto, cioè uscire, esci pure, perché come inizia dice lui. Ma perché lui inizia direttamente, si faccia trovare fuori dalla polizia, dice sono qui per contestare il governo, avanti, faccia il martire, c'ha le palle. Allora eravamo con Davide da Torino, che non so cosa stava dicendo, dicendo. Stavo dicendo che allora il lockdown probabilmente andava fatto prima per contenere i danni, è stato fatto un disastro e adesso il capro espiatorio qual è? Il poveretto che porta il cane a pisciare. No, ma non è il capro espiatorio. No, allora, Cruciani, in Europa quanti paesi fanno un lockdown di questo tipo dove tu non puoi andare al parco da solo, naturalmente, senza fare assembramento? Non lo so. O non puoi andare non a lo fare so una corsa, solo noi. E voi tutti accettate. Ma Parenzo, noi tutti accettiamo. Il fascistello di sinistra alla De Luca, e tu il fascistello ce l'hai nel sangue. Ma e quale allora, sangue? Non bisogna uscire, sangue. Non bisogna uscire. Allora, se del uno sangue esce, non rappresenta un vettore di potenziale trasmissione del virus, anzi lo rappresenta di più se sta chiuso in un condominio. E quello, la questione è questa. È Davide, semplice. Davide, allora la situazione è molto semplice. Quando tu vuoi, hai scelto una strada che è quella della chiusura, non puoi creare delle falle dopo. Ma non puoi vero, creare delle. Certo. Non puoi creare. Ma non lo so, io non lo so. No, io ti sto dicendo chiusura, che non so neppure. Ma non mi sono informato perché mi dicono che solo in Italia uno non possa portare il bambino, lo debba tenere chiuso in casa per un mese. Amico mio, io ti sto dicendo una cosa, non so se sia la strada giusta, ti dico semplicemente che se uno facesse una disposizione in Italia, non in Giappone dove la gente come dei soldatini ubbidisce eccetera, ma in Italia se tu dici, bene, potete fare una passeggiatina una al giorno, è un delirio, già è un delirio adesso, nonostante quelli che dicono, ci sono poche multe, ma ci sono una marea di multe, non poche multe, se tu 10.000 multe, non so quante sono state fatte nei giorni scorsi, le consideri come 10.000 possibili contagi di gente che esce, è un disastro, per cui di che parliamo, ragazzi? Fanno assembramento, ma se la gente si va a fare una passeggiata insisto, non rappresenta questo un rischio di trasmissione del virus. Ma non ho detto che automaticamente si automaticamente ma si trasmette il virus, è chiaro che se tu va a fare una passeggiata no, all'aperto, hai ragione, rappresenta un rischio di Davide, trasmissione del virus. Davide, no, certo che no, se vai da solo e non vedi nessuno, certo, no, ma siccome non si può, ma l'Italia è grande e i posti sono tanti, il territorio è difficile da presidiare, se tu dai il via libera a uno per dire guarda vatti a fare una passeggiata se non c'è nessuno, è chiaro è che un ci disastro tutti, è chiaro che ci vanno tutti a quel punto perché fa caldo, allora, perché la gente non lo so se siamo coglioni, io non so se sia la strada giusta, però è una strada, se tu cominci a percorrerla la devi percorrere fino in fondo con grande durezza. Dunque alla signora che è stata multata per essere andata 11 cazzo di volte a fare la spesa, io dico peggio per lei, che a meno che non abbia problemi, non sia uscita perché non se lo ricordava o cose di questo tipo, ho letto solo la notizia, 11 volte a fare la spesa multate di 400 euro, poco ragazzi, poco, allora, aspetta, poco. È l'altra assurdità, perché per legge io posso andare, non mi hanno scritto nel decreto, nell'ordinanza, sì, che non posso andare 11 è vero, volte a fare la spesa. Purtroppo anche questo è vero, non so il motivo per cui l'hanno multata, evidentemente, andare, sì certo, ma evidentemente era uscita e non sapeva dare una spiegazione. Ma le leggi non contemplano la frase con buon senso, cioè il buon senso quello dovrebbe averlo il cittadino, non è che tu in una legge puoi mettere il buon senso, la legge ti dà un quadro generale, poi tu vai a fare la spesa, vedi che c'è un assembramento pazzesco e magari ci ritorni 10 minuti dopo, ma questo non è che lo può dire la legge, ma mi ciao, sembra veramente ciao Davide, ciao. Incredibile. Ragazzi, poi questo qua è il paese in cui c'è gente, vi ho fatto già ascoltare prima dei file, ma ve li faccio riascoltare, di un tizio che si chiama, ripeto, Secci a Cagliari, pare che sia un mezzo, uno con dei precedenti, diciamo, no? Questo Secci, un 42enne sardo, che dopo magari proviamo pure a chiamare, questo signor Secci, che dice di avere come avvocato Carlo Taormina, signor Carlo Taormina, che è un altro di quelli che dice ai poliziotti o alla polizia locale, perché l'ha pizzicato in giro, beh, dovete identificarvi voi. Ma cosa si deve identificare? Quello che pensa di essere, no, che di appartenere al diritto internazionale, oppure attraverso il diritto internazionale di appartenere all'universo e non allo Stato italiano. Le sto chiedendo nome, cognome e numero di matricola. Lei è un pubblico ufficiale, ho diritto di riprendere e ho diritto di chiedere di esibirvi, perché la divisa la possa avere chiunque. Quindi, come da Costituzione, innanzitutto mi state violando i miei diritti. Mi favorisce il documento. Sì, e seconda cosa, lei me lo fornisce il suo. Mi favorisce il documento. Lei me lo fornisce il suo. Ma le devo fornire un documento? Carlo Tormina, ha visto, mi si stanno rifiutando di darmi. No, lei non è nessuno, se lei non si identifica, glielo do se me lo dà. Perché conosco la Costituzione, conosco i miei diritti e vi faccio finire, vi faccio la causa per sequestro di persona se mi portate in questo. No, c'ho Carlo Tormina, avvocato, ci sono le mie dirette su Facebook, secondo il diritto, il trattato internazionale, qualunque forza dell'ordine, essendo pubblico ufficiale, può essere filmato e ha il dovere di identificarsi. No, le sto dicendo, quello che voi sta violando con la divisa. Sono un libero cittadino, non ho una condanna sopra, la libertà dell'uomo è inalienabile, a meno che non ci sia, no, a meno non ci sia una condanna passata in definitivo da un giudice. Questa è Costituzione, articolo 3. Come rispondiamo a questo? Mi fai parlare? No. Sì, ma io voglio sapere nome e cognome, secondo me voi non mi rappresentate niente, se voi non vi fate identificare. No, mi fa vedere, io devo vedere il distintivo, devo vedere il tesserino distintivo e il numero di matricola, di ogni nome, cognome, numero di matricola, è legge, e poi dopo le do il mio documento perché lei si è identificato. Poi se mi vuole portare questo, nel frattempo il mio avvocato sta facendo una carta, voi mi fate un foglio e vi denuncio per sequestro di persona. Yuri da Brescia, avanti tutta, vai. Ciao, mi sentite? Dimmi. Io volevo dire una cosa, volevo capire, non l'ho mai pensata e non l'ho neanche mai detta questa cosa, e l'ho combattuta sempre, però davvero da un mese a questa parte comincio a pensare che siamo davvero un paese di merda, perché Roma dice una cosa, le regioni poi ne vogliono fare un'altra e i sindaci poi ne fanno un'altra ancora andando in conflitto fra di loro. Vabbè, allora? Allora ti spiego subito, ti faccio un esempio molto semplice. A metà marzo il sindaco di Brescia, senza coordinarsi con il prefetto, ha deciso la città di bloccare i giochi Lotto, ad esempio, perché sono tabaccaio. Benissimo. Non si è coordinato col prefetto e nei comuni limitrofi. Vabbè, dunque, qual è la tua preoccupazione? Spiegami. La mia preoccupazione è come si fa a governare un paese se non si ha una regia unica. Non si può pretendere di dare a ogni singolo e ogni singola istituzione il cazzo che si vuole. Ma dipende, però ragazzi, è anche vero che ci sono delle situazioni diverse da città a città, da regione a regione, oserei dire. Cioè la situazione del Veneto non è uguale a quella della Lombardia, la situazione di Bergamo non è uguale a quella di altri posti, eccetera. È vero che ci sono delle direttive nazionali, però caso per caso poi si arriva a delle situazioni diverse e così si andrà avanti, vedrete con le riaperture quando ci saranno. A Milano c'è l'obbligo di girare, a Lombardia c'è l'obbligo di girare con la mascherina. Ma in realtà non è ancora definitivo perché le mascherine non ci sono, naturalmente, per cui anche lì grande confusione con l'OMS che dice che in realtà potrebbero essere anche negative. Ragazzi, non si capisce un cazzo. Fabio da Bologna, dimmi. Si capisce che ci vuole un po' di buonsenso. Fabio, dimmi, dai. Sì, Fabio, ciao, dimmi. Cruciani. Buona serata a tutti. Dimmi. Volevo soltanto dire una cosa prima. Come prima cosa volevo dirti, t'ho sentito dire prima che tutto chiuso, tutti a casa. Ti volevo dire che è un privilegio che si può permettere chi ha uno stipendio alto e garantito, perché se sei uno di quelli che lo Stato ha deciso di far fallire, probabilmente non ragioneresti così. No, ma non era questa. Attenzione, Fabio, attenzione. Io non è che dico adesso, e il governo deve avere un piano B per riaprire tutti. Cruciani, che cazzo vuol dire? Il problema, Cruciani, e poi bisogna dare soldi, cose che ancora certo. Cose che non sono Cruciani, arrivati, e non è arrivato problema, un cazzo alle partite IVA o a chi di attività commerciali, soldi subito come hanno fatto altri governi, chiaro? Il problema è che lo Stato ha deciso chi può fallire e chi non può fallire. Ma che vuol dire chi può fallire e chi non può fallire? Qui a Bologna c'è un'azienda che fa respiratori e che non ha mai fatturato più di 7-8 mila, ho capito, euro, ma che dobbiamo fare? Ne fattura 16 e hanno culo, ma hanno culo, che ti devo stati i primi a inventarsi una roba, hanno, per forza. Hanno culo, pure certo, lo facevano già prima. Che ti, c'è sì, gente culo, che ci guadagna, c'è gente che non ci guadagna. Ha aperto un'attività e fallisce perché non ha culo. Fabio, dove e che bisogna fare? Ma nella vita, ma la vita com'è fatta secondo te? Ci sono quelli che guadagnano anche nelle aziende. Per le aziende, ma quali soldi? Ma no, facciamo una cosa: da domattina danno a tutti, chi è in pensione, chi è imprenditore, chi fa il giornalista, prendiamo tutti 600 euro, perché questo è quello che ha detto che il governo ha deciso che una partita IVA deve avere. Ma è una vergogna, sono d'accordo con te, è una vergogna. Anche Cruciani prende 600 euro. Ma cosa cazzo vuol dire? Ma non è vero, ma non sarà così. Tutti 600 euro. Ma non sarà così, non è vero, non sarà così. A parte che Cruciani ha assunto. Assurdo, ma io che sono assurdo, una partita IVA non li prenderò i 600 euro ad esempio. No, ma lascia perdere questo, Fabio vuole dire un'altra cosa. Ma no, ma per spiegarlo, Fabio vuole dire così, un'altra cosa. Fabio sta dicendo un'altra cosa. Fabio sta dicendo che è incazzato perché ci sono pochi soldi per le partite IVA o per attività commerciali. Hai perfettamente ragione. Ma no, non sto dicendo che hai torto, però aggiungo un'altra cosa. Tu hai detto ci sono delle aziende che ci guadagnano. Certo che ci sono delle aziende che ci guadagnano, non c'è dubbio. E che vuoi fare? Che vogliamo fare? Vogliamo mandare in fallimento pure quelli che fanno i respiratori? No, dico, è una situazione devono guadagnare 500 euro quelli che fanno i respiratori, che cazzo vuol dire? Straordinaria. No, ti sto dicendo che se è una situazione straordinaria, è straordinaria per tutto. Tu vai a lavorare, prendi 600 euro, tu sei in pensione, prendi 600. Ma che vuol dire? Non è che guadagno, non è che adesso c'è il socialismo reale, tutti guadagnano la stessa cifra. Ti posso dire solo, io avevo chiamato per dirti un'altra cosa. Oggi una pallavolista che gioca in nazionale, non ho capito, in Serie A italiana, è tornata a fare l'infermiera, un altro che era un ortopedico adesso, e sono tutti nei giornali radio, sono tutti nelle trasmissioni della Merlino, roba del genere. Vi volevo semplicemente far notare che l'anno scorso sono morti più di mille persone sul lavoro, l'anno prima 1200, e nessuno se li è cagato. Tutta gente che paga tra l'altro lo stipendio agli infermieri, che adesso sono angeli, sono eroi, sono tutti, e quei mille eroi dell'anno scorso morti non e 1200 dell'anno prima. Non ho capito. Ci sono i morti sul lavoro, lo sappiamo che ci sono i morti sul lavoro, allora però nessuno se li caga. Ma che nessuno se li caga? 89 medici, 89 ma che vuol dire nessuno? Ma che cazzo dici nessuno se li caga? C'è sempre una polemica quando ci sono dei morti sul lavoro, proteste sindacali, eccetera, le aziende che intervengono. Che dici che nessuno si caga? Morti altri, evidentemente. Vabbè, Fabio, ciao. È deciso a far riaprire le chiese per la messa, è deciso, non è che decide lui, però è sicuramente a favore in via eccezionale a Pasqua. Paolo Ambrosio è con noi, buonasera. Ciao Giuseppe, ciao Dario. Eccoci qua. Ciao, allora, Paolino. Ciao Paolino. Allora Paolo, come tu sta sei... la tua mamma intanto? La tua mamma come sta? Ecco, un abbraccio bravo, forte. Giusto. Parliamo della mamma, che è veramente un miracolo di Dio che sia arrivata a questa età in un momento così difficile. Perché diciamolo che domani compie 90? Oggi. 7 aprile, 99 anni. Beh, amico mio, 99. Che genetliaco pazzesco, 99. 90 è quasi meglio di 199, perché 99. Considerando che sono figlio unico, che mio papà è volato in cielo. Che comunque nella mia vita non ho mai insomma riuscito a portare avanti la mia famiglia, quindi attraverso varie vicissitudini. Cioè lei ha visto due guerre mondiali e poi mia mamma del 21. Come due guerre mondiali? Scusami, una guerra mondiale e il coronavirus. La prima guerra mondiale con mio nonno, suo babbo, che era decorato al valor militare perché guidava un plotone d'assalto alle trincee austriache dei bersaglieri. Vedi, senti una cosa, 4 volte decorato medaglia militare al valor militare, ma, croce di guerra. Ma come sta adesso? Questa è la cosa più importante. Primo a sbarcare a Mola Audace a Trieste, con la Trieste liberata dopo la vittoria. Quindi mia mamma ha subito un po' tutto. Ma sta bene? Sta bene in questi giorni? Sì. Mia mamma l'altro giorno diceva, gli ho detto, sai, mi ha chiamato Giuseppe e vado alla Zanzara. Allora digli a Giuseppe che nella vita bisogna imparare sempre a stare in trincea, mai mollare il colpo. Beh, amico mio. Ho detto, mamma, ma c'hai 99 anni lei? Ma che te ne frega? E ora si scende in trincea. L'unica cosa, dice, la seconda guerra mondiale, arrivavano le bombe da tutte le parti, le sentivi fischiare e poi esplodevano, distruggevano tutto. Però qui il nemico è invisibile. Ma lei ragiona col cervello, ci sta. Mia mamma più lucida di noi tre messi insieme. Lo so, amico mio. Per cui capisce quello. Capisce. Magari. Mamma vede, ascolta, Sky TG24, TG24, Rai News 24, poi mi chiama. Che ti quando io sono in giro mi dice: lo sai che in questo momento è uscita questa notizia? Ho detto: mamma, ma neanche Fede faccia così. Io sai cosa farei, caro Paolo? Io la metterei nella commissione contro le fake news. Perché secondo me lei è molto informata. TG, la Zanzara la segue sempre. Poi fino a mezzanotte, l'una, tutti i programmi, gli ultimi TG, e poi Mediaset Extra mi va a letto alle 2:30 per seguire Grande Fratello. Io mi incavolo perché la mattina mi salta. Come Grande Fratello? È incredibile, ragazzi. La D'Urso sicuramente la segue, figuriamoci. Scusami. La D'Urso, lei poi segue, però critica tutti. Ma figuriamoci. Scusami, Paolo, scusami. Allora, veramente sei convinto che domenica per Pasqua bisogna riaprire? No, io non è questo discorso. Allora, il mio discorso era un altro. Se c'è la volontà da parte del governo, di questo Parlamento e della Chiesa, perché poi sai, dal governo, Presidente, l'ho detto anche alla DN Krons, che mi ha chiamato per questo argomento, ho detto: so che i 5 Stelle, a parte qualche eccezione che conosco, come l'ex sindaco di Livorno, per dire, nessuno è attento ai valori cristiani o osservante della Chiesa apostolica, cattolica, romana o comunque la Chiesa cristiana. Ci sono varie Ma al di là di quello che può succedere, voglio capire quello che pensi non te. Non mi aspetto da loro, ma non me lo aspetto neanche dai vescovi, che alla richiesta del governo chiudono tutto. Poi il Papa ha dovuto fare la sparata a Santa Marta il giorno dopo. Sì, ma io voglio capire quello che dici tu. Sono cioè, fosse per te, Roma, fosse. A Roma erano anche chiuse le chiese. Ma le chiese non sono chiuse. No, d'accordo. Sono aperte, puoi andare a pregare, ma non assistere alla messa. Ok, allora non assistiamo alla messa in queste condizioni? Anch'io dico di no. Ma se tu hai al cuore questo problema e tu ti organizzi, no? Perché come ti sei organizzato per andare al supermercato, che fai la fila, fai la distanza, allora tu devi sapere che ogni chiesa, tu mi dici: ma come puoi fare una roba del genere, che ma la gente va in fare, chiesa, dai, non si può fare, non è vero, non è vero, perché in ogni parrocchia c'è un consiglio parrocchiale dove ci sono una ma perché prendersi laici che aiutano il parroco, fanno servizio d'ordine, tengono la distanza, metti le transenne, fai entrare uno per uno e dai il corpo ma di guarda, Cristo. Ma perché organizzare tutto questo? Non ce n'è bisogno. Si prega in casa, si sta in casa, chi crede prega. Questo è esattamente lo stesso concetto logico di ormai tutti, ed è una grande sofferenza, perché ma che sofferenza, cavolo, ma la gente non soffre a stare a casa. Cristo morire sul Calvario per lasciarti il sacramento dell'Eucaristia. La pregherina va benissimo, ma la pregherina non ha la potenza salvifica dell'Eucaristia. Corpo ma di se non di l'ha Cristo. Chiesto neanche il Papa, Paolino, neanche il Papa l'ha tu detto, vuol dire Papa, che l'Eucaristia la farai più avanti, la farai quando è passato il coronavirus. Virus, fratello mio. Nessuno ha organizzato un contingentamento e delle modalità per rispettare le prescrizioni medico-sanitarie. Ma perché sarebbe una follia? Sacramento della confessione dell'Eucaristia. Io dico ma è impossibile da gestire, non puoi farla in casa. Non puoi farla, spiegami perché non si può fare in casa l'Eucaristia. Una bella cosa, non si può fare l'Eucaristia in casa. Prima di tutto, fatemi finire, se no ci parliamo sopra. No alle messe della domenica, sì alla messa feriale, dove non c'è già nessuno mai. Ho capito, ma a Pasqua, secondo te, che bisognerebbe fare a Pasqua? Organizzare una messa, aprire le chiese eccezionalmente con un'organizzazione, che bisogna fare? Scusami, ma tu che segui, sei un uomo attento alla politica, all'economia, allo sport, alla cronaca di tutti i giorni. E stai parlando con uno che ha fatto 32 anni, allora, che ha cominciato allora a far cronaca nera giudiziaria a 17 anni. Vabbè, allora mi vuoi dire per cortesia cosa sta succedendo nei paesi ortodossi e nella Chiesa cattolica, per esempio polacca? Te ne faccio ma una, so, ma in tutte Polonia le chiese dell'est hanno contingentato licenziato, limitato. Ma non mi interessa, in Italia è quello. In Italia è la conferenza episcopale polacca ha quadruplicato le messe, fa entrare 20 persone alla volta. Ma qui è un casino gestito. Ma scusami, ma spiegami, ma perché tutti hanno preso il corpo di Cristo? Ma lo stesso problema vale per noi ebrei nelle allora, sinagoghe. Aspetta un attimo, apriamo i bordelli allora. Allora la gente ha bisogno, come del corpo di Cristo, di scopare. Apriamo i bordelli. Allora che scusami, sarà un'esigenza. Vabbè, allora, questa battuta qui ti posso dire. Beh, scusami, dai. Ti posso dire. C'ha ragione. No, questo però, ragione, scusami. Però, cioè, dai, non c'è. Ma come si fa? Vabbè, dai. Basta, dai. Cioè, allora, Paolo, scusami. Facciamo una serata insieme, andiamo facendo due risate. No, ma non è solo una provocazione. Ma non è solo una provocazione. Io faccio una chiusa su un argomento di questo genere, tu mi dici, allora la gente riapriamo i bordelli. No, vabbè, ma per dire, è una battuta. Anche le moschee. Però tu riapriresti anche le moschee, scusa, Paolo. Ma non ho detto la chiesa. Scusami, se è una questione di esigenza, ognuno ha le sue esigenze. Ci sono le esigenze religiose e le esigenze del corpo. È una provocazione, chiaramente. Però ti dico che se uno ha un'esigenza. Ma le esigenze del corpo sono già tutte previste. Le sigarette fanno bene i polmoni. C'è un virus che fa venire una polmonite bilaterale interstiziale. Tu dai il permesso per decreto del governo di andare a comprare le sigarette, una bella steccona di Marlboro, sì, e vai giù col cannone di Marlboro, e poi non puoi andare a chiesa a prendere Gesù. Ma ho capito, ma allora io ti dico, mi convinco molto di più. Io posso andare a comprarmi una sega circolare alla ferramenta e un bel cacciavite e non posso andare a confessarmi a 3 metri di distanza. Ma perché quello, se tu dai il via libera... Ma perché non mi posso andare a confessare? Perché stai a contatto con la bocca del prete, cazzo! Ma che bocca del prete! Il prete sta a 4 metri! E te gli dici i peccati, chiude la chiesa! Ma fallo via Skype! Entrare una alla volta. Ma lo vedi che te non hai a cuore le cose, non te ne frega! Io ti dico che si può fare! Ma via Skype! Ma via Skype! Fallo via Skype! Ma tu credi che se uno prega è cretino? Ma che figuriamoci! Che c'è un focolaio di infezione! Ma appunto! Ma se io vado alla gastronomia e quella che mi taglia il salame non c'ha neanche la mascherina, perché parliamoci chiaro, quanti di quelli che sono addetti alla distribuzione alimentare hanno le mascherine? E hanno i guanti. Vabbè, quello è problemi loro. Non c'era nessuno ancora. Ma problemi loro. Ma come fai la confessione a 4 metri? Qualcuno potrebbe sentire la confessione a 4 metri. Ma fai entrare un fedele alla volta. Metti 2 lacci all'ingresso. Ma appunto, lo vedi, 2 lacci. Fai la coda. Ma due. Fai la coda. Non lavora più un tubo nessuno. Siamo tutto il giorno a non fare un tubo. Vado in chiesa, aspetto il mio turno. 1 ora, 2 ore. Mi confesso e torno a casa. Mascherina io, mascherina al parroco. Guanti di qui, guanti di là. Mutande di bandone, finita. Scusami, allora io ti potrei dire. Veramente non è solo una provocazione, Paolo. Però scusami, me l'hai messa come una provocazione. Allora, adesso, eccetera. Ci sono tanti bisogni, tra cui anche quello religioso. Lo capisco, non è il mio, è il tuo e lo rispetto tantissimo. Tra l'altro, allora io ho bisogno di andare dall'articolo 19 della Costituzione. Vabbè, allora scusami, se uno va con 110 lodi, vabbè, ma lascia perdere, va bene, la prostituzione, sì, ma il bordello prevede il contatto fisico, però oggettivamente, cioè il bordello prevede, credo, a quanto ma lascia perdere il bordello, no? Uno se va a prostituta per... facciamo un altro paragone un po' più calzante, via. Ma il paragone ci sta, perché bisogno dell'anima, bisogno le del corpo. Le moschee, apriamo anche le moschee, allora, che vuoi mangiare un panino, ma allora scusami un attimo, allora Fiorello ha detto che si può pregare anche in bagno, si può pregare in bagno, perché infatti no? Io gli ho fatto un post a Fiorello, gli ho risposto, perché siamo amici con Fiorello, gli ho detto: Fiore, non mi sembra che sia la stessa cosa pregare davanti al water e pregare davanti al Santissimo, perché io in casa non ce l'ho al Santissimo, a meno che non ce l'abbia Cruciani, vengo a casa tua a pregare davanti a Gesù, ma non penso che tu abbia la particola santificata in una celebrazione eucaristica. C'è la foto, c'è il quadro di Dell'Utri, il passaggio dal pane al corpo di Cristo, dal vino al sangue di Cristo. Questo ma Dell'Utri c'ha Dell'Utri a casa, c'ha Dell'Utri Cruciani, la preghierina. Vabbè, che comunque... come vuoi, morto a fare Cristo sulla croce per salvare Cruciani, ha ragione... se poi Cruciani preferisce andare a mangiarsi un panino. Ha ragione Fiore quando dice che si può fare tranquillamente anche ma in bagno. Vabbè, tanto, cioè, voglio dire, e De Luca dice dai retta a me e dai retta a Fiore, ognuno dà retta a chi gli pare, no! Io do retta al Vangelo, ma quello autentico del Cenacolo. Allora De Luca dice che è cristiano, molto più cristiano stare a casa. Signor De Luca, il governatore del mondo, governatore della Campania, che non so, che voglio vedere cuore De Luca quante volte va in chiesa e si confessa. Poi ragazzi, arriviamo alla fine, si tira la riga davanti al Padre Eterno, voglio ridere. Beh, ho capito, voglio ridere, ho capito perché. Ma che stai dicendo che De Luca è meno cristiano di te, semplicemente. Ma che me ne frega a me di De Luca? Lui può dire cosa gli pare. Io dico quello che penso dal mio cuore. Vabbè. Lo dico a te in questa maniera perché siamo amici. Vabbè. E questo lo sai. Assolutamente. Però ti dico la verità, tu mi dici la tua verità, io spero di farvi riflettere e che un bel giorno tu dica: Paolo, portami a Medjugorje, Paolo, portami a confessare. Ma adesso questo mi pare. Confessi, ma io sono contento perché ti salvo l'anima per tutta la vita, anche quella eterna. Ciao, ti abbraccio, un augurio alla tua mamma, un abbraccio. Come avete alla tua festeggiato? No, però come avete festeggiato con la mamma? Scusami, aspetta, una torta l'avete fatta? Sì, vai, vai, vai, passa, passa. Sì, che la salutiamo, la signora. Mamma. Com'è che si chiama? Che non mi ricordo. Mamma. Com'è che si chiama? Non mi ricordo. Mamma, sono in linea con Giuseppe. Com'è che? Parenzo, com'è che si chiama? Zanzara, Paolo, siamo in diretta. Paolo, un saluto che ti volevamo fare, saluto per il tuo compleanno. Come si chiama? Che non mi ricordo. Giuseppe Cruciani, la Zanzara. Ah, lei mi segue sempre, te la passo. Come si chiama, Paolo? Non mi pinci. Pronto, sì. Signora, la Zanzara non mi sopporta. Signora. Il corte di Marius è pieno. Signora, signora, come... auguri, auguri. Auguri. Auguri, 99. Siete ragazzi intelligenti. Beh, insomma, adesso. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, signora Brosio. Tanti auguri a te. Abbracci, abbracci, 99, numero 1. La Zanzara. Io non è che condanno l'omosessualità, figurati, purtroppo ci sta. Pronto? Allora, vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta, tanta, tanta paura? Sì, mi dica. La terminazione nervosa che è presente dentro l'ano è evidente che procura un piacere talvolta superiore, secondo alcuni. Per cui, ragazzi, ma dobbiamo fare le prossime puntate sulla differenza tra la penetrazione anale e quella vaginale? Dimmelo subito, perché mi stai spronando, mi stai suggerendo. Più mi dici di no, dimmi di sì, dimmi di sì che non lo faccio, dimmi di sì. No, grazie. Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese, ma è meglio il mojito. Eppure liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove uscì, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il signor Parenzo. No, grazie. No, grazie. No, grazie. No, grazie. Cazzo Parenzo, madonna, a Napoli ci sono le viuzze per cui è impossibile governare i flussi. Ma che cazzo dici? A Venezia, allora come fanno a Venezia? Ma porca miseria, madonna. Limbas. But don't get so far. You get my respect, but we don't connect. We're in it together, so I love you forever. Allora ragazzi, abbiamo una telefonata da Milano, ci ha chiamato Lisa. Lisa, buonasera. Vai. Ciao, buonasera. Ciao. Scusa, ho un po' di difficoltà con la voce. Ogni tanto faccio un po' di fatica a respirare. Ma come mai? Sei malata di coronavirus? Sì, sono a casa dal 9 di marzo. Sì, mamma mia. E adesso la maggior parte dei sintomi sono passati, ho ancora la tosse e ogni tanto faccio un po' di fatica a respirare. Il problema... È quasi un mese che stai a casa. Purtroppo sì, anche perché quando sono andata... Come, scusi? Quanti anni hai? Quanti anni hai? 51. Senti una cosa, ma sei da sola a casa? Sono da sola. Il 10 di marzo mi hanno portato in ambulanza d'urgenza perché ho avuto una crisi respiratoria e dopo mezza giornata mi hanno lasciato andare a casa con tutti i sintomi, compresa la febbre alta, perché secondo loro, non avendo la polmonite, mi hanno rimandato a casa e non mi hanno neanche fatto il tampone. No, le hanno fatto il tampone il 10 marzo, signora. Tu non ho capito, tu ufficialmente non hai il coronavirus, non ho capito. Ufficialmente io ho tutti i sintomi, ma loro non mi hanno fatto il tampone perché mi hanno detto: guardi, non è abbastanza grave, non ha la polmonite, per cui può tornare a casa. Allora, vuol dire, il fatto che tu sei malata di coronavirus, prima mi hai detto di sì, è perché ci sono tutti i sintomi e pensi di averlo, ma in realtà ufficialmente non ce l'hai. Ufficialmente non ce l'ho, però loro ufficialmente sul referto mi hanno messo in quarantena, mi hanno fatto degli esami del sangue e dagli esami del sangue risultava un'infezione virale, però loro mi hanno detto: noi non glielo possiamo fare, anche perché il 9-10 di marzo era un periodo in cui probabilmente avevano troppi ricoveri e non avevano abbastanza tamponi. Allora, diciamo che tu sei anche una persona fortunata, perché in questo mese, cioè fortunata per modo di dire, perché evidentemente non ti sei aggravata dal punto di crepare in casa, adesso te lo dico così in maniera molto chiara, molto cruda, perché la cosa poteva succedere naturalmente. Esatto, sì, me l'hanno detto in ospedale, mi hanno detto: guardi, se peggiora potrebbe venirle una polmonite anche tra 3 settimane, io gli ho detto grazie. Pazzesco. Ma scusa, la cosa incredibile è che tu vorresti in questo momento sapere innanzitutto una cosa: tu hai un compagno, un marito, dei figli? Allora, io la cosa, diciamo, positiva è che mio marito è all'estero, per fortuna, perché sennò glielo attaccavo. E sono contenta di essermi ammalata io piuttosto che lui. E comunque io vorrei sapere se ce l'ho, perché tra 15 giorni, un mese, quando sarà, io dovrò tornare al lavoro. Cioè, io come mi posso porre lavorativamente parlando? Io ho il terrore di attaccare qualcosa a qualcuno, non so più come fare, ho mandato mail dappertutto, ma all'ATS, mi guarda, non interessa a nessuno. Cioè, se io esco di casa tra un mese e sono ancora positiva, cosa faccio? No, se io torno al lavoro, io mi sento anche in colpa nei confronti dei miei datori di lavoro. Vabbè, adesso questo in questo momento il problema dei colleghi. In questo momento, Lisa, io non so che lavoro fai tu, Lisa. Scusa. Sì, no, figurati. Lavoro in un istituto presso un istituto di vigilanza a Lodi. Sì, però voglio dirti una cosa. Non ha più coraggio, Gottardo, di dire che è solo un'influenza? Non glielo dice più. Non l'ho mai detto, non è il momento. Non è un'influenza, io non mi ammalo mai. Io ho fatto però una sola scusami, influenza. Elisa, voglio sapere una cosa. Io non riesco ancora a capire il motivo per cui non ti nessuno è intervenuto per sapere effettivamente le tue condizioni. È vero che stai in casa ormai praticamente da un mese isolata e dunque non sei un pericolo per nessuno. Chi ti porta la spesa, scusami? Per fortuna ho degli ottimi vicini che sono degli amici, sono fortunata da questo lato. Però in teoria dovevano attivarmi una vigilanza sanitaria attiva, chiamarmi dall'ospedale, chiamarmi dalla CS, non mi ha chiamato nessuno. Cioè dove nessuno. Abiti tu? Dove abiti? Io abito a Milano e la mia dottoressa, Milano città, in zona Niguarda, sì. E la mia dottoressa di base è stata l'unico medico che veramente si è dato un sacco da fare per me. Ma mi ti ha sta chiamato seguendo tutti anche adesso? I giorni, mi tutti. Chiama perché non può venire qui. Cioè, se vuoi io faccio qualcosa per te, però io non so cosa posso fare, cioè nel senso posso segnalare il tuo caso alle autorità regionali. Chiamiamo Fontana, l'abbiamo avuto ospite a Cantù, chiamiamo Fontana. No, infatti questo è quello che farò, però voglio capire una cosa da Lisa, cioè tu in questo momento, al di là delle questioni diciamo pratiche, quando vuoi staccare dimmelo, quando non ce la fai più, al di là delle questioni... Dai, ci sei? Al di là delle questioni pratiche, quanto stai così? Tutto il giorno così stai? Oppure è semplicemente perché stai parlando? Alla sera peggiora e poi quando parlo, vabbè, certo, peggiora dopo, certo, un po', ma soprattutto la sera. Allora, devo dire che adesso è molto migliorato. Allora, voglio dire, al di là delle questioni pratiche, io credo che la cosa che tu vuoi sapere è se il tampone è ancora negativo, cioè se il tampone, innanzitutto se il primo tampone, e se sei positiva, come immagino, esatto, tu sia, perché in queste condizioni sarebbe abbastanza incredibile, certo, che tu, se tu sei negativa. E per cui mi attivo perché ti facciano un tampone. Mi sembra una cosa incredibile che nessun presidio sanitario, a parte il medico di base, abbia preso in carico la tua storia. I giocatori di calcio l'hanno fatto il tampone, mi risulta. Lo so, e io calcolo che ho avuto praticamente da lista dei sintomi, tranne in teoria la polmonite, li ho avuti tutti. Tra l'altro la mia dottoressa mi diceva che è facile che io abbia sviluppato anche una broncopolmonite, una polmonite in casa. Ma tu la notte come riesci a dormire? Adesso sì, all'inizio no, facevo proprio fatica a respirare, avevo il fiatone e io sono una sportiva. Ma ti senti, cioè, un po' miracolata? Insisto su questa cosa qua perché c'è un sacco di gente che... Sì, perché la gente dovrebbe, al posto di uscire come mi succede di vedere davanti ai giardini di casa mia, in 4-5 a far correre il cane, mettersi lì a parlare, far uscire i bambini, perché ultimamente succede tutti i giorni, sì, avrebbero dovuto vedere mezza giornata in ospedale quello che ho visto io. Va bene, mi metto in moto, dai Elisa, se vuoi un tampone, un qualcosa del genere, una verifica, una conferma del tuo stato e anche che qualcuno si prenda in carico il tuo percorso, insomma, come uscire, quando uscire, se uscire, cerco di fare qualcosa, va bene? Ti ringrazio molto. Ciao, un abbraccio. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Ciao. I'm living on shady faith, kinda likes to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocating out in total bliss in a city that's worth so much shade. You see me rise above and take its place. Paolo, provincia di Roma, avanti tutta, dai. È incredibile. Chissà quanti sono cosa, questi casi. Oh. È incredibile. Paolo, dimmi. Una banale, una influenza, una semplice influenza. Sì, torniamo sulle stesse polemiche. Dai, ragazzi, non riesci a tacere, dai. Non riesci a tacere neanche di fronte alla malattia di una persona. Paolo, provincia di Roma, cioè, ragazzi, non torniamo sulle polemiche. Cogli l'occasione di attaccarmi anche di fronte a una che tossisce. Dai, Paolo, dimmi. Non è possibile che Parenzo attacca sempre Gottardo, non è possibile. No, poveretto, dai, chi se ne frega. Ma sì, poveretto, chi se ne frega, dai, hai ragione. No, sono ragione, scusa, di non esserci, perché sennò così non ti rendi più meschino, capisci? Vai, sei Paolo, davvero dai, meschino. Se ne frega. Ti rendi, vai, conto? Ragazzi, calma, poverino, dai. Poverino, Paolo, poverino. Dai. Paolo dalla provincia di Roma, dai. Alla fine, Parenzo, ho visto domenica, ha preso una scuffia, pure se fosse stato Churchill, paragone. Hai preso una scuffia pure di paragone, vabbè. Qualcuno pensa, insomma, qualcuno pensa che ha ragione uno, sì, qualcuno pensa che ha ragione l'altro. Sì, questo, dai, è legittimo, infatti, questo è legittimo. No, ma questo ci sta. Ma di te, Cruciale, che alla fine da tutto quello lì che di controcorrente, quello che bisogna sempre. Ma capito, per essere controcorrente bisogna essere per forza d'accordo con paragone, non ho capito. Cioè, uno per essere controcorrente devi essere d'accordo con paragone. Su cosa, dimmi? Per essere controcorrente bisogna andare per strada a dire libertà, libertà, vaffanculo. Non lo so, che bisogna fare, non lo so. No, semplicemente diversificare zone, perché non è possibile. Ma io già ho detto, già Paolo, ho già detto. Ma sarà così poi. Si farà così, però si farà così. Probabilmente si poteva fare in modo diverso. Da regione quando a regione, però? Ma tu non lo so quando, non sono io a decidere. Ogni giorno se ne inventa una. Il giorno arriva la settimana scorsa, diceva la settimana prossima arriva il picco. Da un mese e mezzo stiamo aspettando questo picco, è arrivato l'altro giorno. Ma ho capito, ma che vuoi? Che lo vuoi, che lo vuoi spingere tu il picco? Lo vuoi creare tu il picco? Lo vuoi creare tu artificialmente? Ho capito. I messaggi sono contraddittori. Si parla troppo. Oggi Arcuri, il commissario che dovrebbe parlare solamente di approvvigionamento di mascherine e altre cose, bravo, ha cominciato a parlare secondo lui come andrà, come non andrà. Deve stare zitto, Arcuri. Posso dirlo? Gliel'hanno chiesto. Non mi interessa, Arcuri deve dire, e dovrebbe rispondere Arcuri, io mi occupo di approvvigionamenti, mi occupo di recuperare materiale per gli ospedali, per non infatti so ha che... detto 650 Senti, milioni David, di mascherine David, ha detto anche quello, però ha dato una sua previsione sui tempi, no, sì, però è normale, no, scusa, se uno è, no, in una cabina di regia, no, quindi ha contatto, quale cabina con di regia, di sanità, ma non sei in contatto medici, con nulla, non devi parlare, no? Non devi parlare, e lui di il braccio armato del governo su quella cosa. cosa, quindi sarà informato. Hai ragione tu, deve parlare. Ma se uno gli fa una domanda, no, sarà non risponde informato una dei fatti. Secondo me una persona che una persona responsabile, poi non dico che sia irresponsabile. Quindi solo Borrelli deve parlare di questa cosa. No, nemmeno o Conte. Borrelli deve dare dei numeri. Borrelli deve dare dei numeri. Il ministro della sanità una volta, secondo la mia visione, in questi casi di crisi, il ministro della sanità una volta a settimana ci informa sull'andamento delle cose. Non è che uno dice una cosa, quell'altro dice. In realtà lo fa la Protezione Civile ogni giorno. In realtà la Protezione Civile lo fa ogni giorno. Sai che ti dico, Davide? La comunicazione è stata perfetta. Così sei contento. No, quello tutt'altro. E allora perché la gente parla troppo? Non bisogna mai attaccare il governo. Ma perché la gente parla troppo? Bisogna attaccarlo per quello che non fa. Per quello che non fa. Ma per la comunicazione. Per quello che non fa. Fermi tutti. Bisogna attaccarlo per. La Zanzara. Resistere come su una irrinunciabile linea del Piave. Pippe. Sì, io vedo molto negativo. Un consiglio per tutti i puttanieri come me che adesso sono in astinenza forzata. Allora, io sto mettendo 10 euro da parte al giorno per ogni giorno di quarantena, così se mi dovessero tenere chiusi in casa mi faccio 300 euro da spendere a mignotte, appena esco me ne trombo tre insieme. Quindi questi figli di puttana che stanno al governo, più mi tengono in casa e più io vado a mignotte quando finisce, ok? Ciao bello, ciao. Che voglia di cazzo, mamma mia! No! Madonna! Allora ragazzi, posso dirvi una cosa? Ne ho approfittato... Anzi, ne voglio approfittare perché non l'ho ancora fatto in questo periodo. Ci ho pensato ieri notte, sono stato sveglio fino a tardi, non riuscivo a prendere sonno, c'ho un mal di testa bestiale, per fare testamento. Per fare testamento, che ti devo dire? Mi è presa questa fissazione, mi è presa questa grande fissazione di fare testamento. Con tutte le proprietà che hai, ci metti un bel po' tra le altre cose. No, ma non c'ho nessuna proprietà intestata. Non per so cui... se ci metti di più a far testamento o a confessare i tuoi peccati. Beh, sicuramente a confessare i miei peccati, posso dirti? Quasi sicuramente a confessare i miei peccati, però voglio assolutamente fare testamento. Che ti devo dire? Mi lasci il quadro di Dell'Utri. Adesso ci devo pensare, il quadro di Dell'Utri. La bandiera della Juventus. Però non so se si possa fare nel dettaglio proprio così. Però sì, hai ragione, bisognerebbe pensare ai dettagli proprio quelli. Questo? Che ne so, Parenzo sarà che stava platerando ogni tanto. Dall'oltretomba. Però voglio fare testamento. Che devo fare? Bisogna. Quando? Quando? Adesso, in questi giorni, Richard, che devo fare? Cioè, in questi giorni voglio fare testamento. E credo che si possa fare il famoso testamento olografo. Olografo, certo. Però mi dicono che non posso lasciare il 50% a un bordello. Cioè, questo no, mi io dicono. Solo quello di Guttuso voglio, quel quadretto di Guttuso che ti ha regalato tempo fa, credo Marina Ripa di Meana. Una delle amanti di Guttuso, delle donne storiche. Amanti, io lo dico in senso positivo, mica negativo. Sì, cioè... comunque, insomma, io quel quadro di Guttuso. Poi mi dicono che devo per forza dare il 50% a mia figlia, qualche amico avvocato. Beh, sì, che intanto certo, mi scrive. Ma per fare la legittima, per forza. Ma io le darei anche di più. Per cui, comunque, voglio fare il testamento. Ragazzi, aiutatemi voi, avvocati, giuristi che siete all'ascolto. Voglio fare questo per non pagare il notaio. Quindi, tu vuoi un notaio gratis per fare il testamento gratis? No, mi è venuta questa fissazione ieri notte, voglio fare testamento, ma potrò o no fare testamento, cazzo, senza essere accusato di farlo perché non voglio pagare l'avvocato o non voglio pagare il notaio, eccetera. Il sospetto è legittimo, Ma no, ma che cazzo? Ma com'è che non riusciva a dormire? Cosa hai fatto tutta la notte? Riusciva poveretta, a dormire? Non riuscivo a dormire, ragazzi. Che ti devo dire? Ero stressato, mi sono messo a vedere 2 o 3 serie. Stressato. Sì, sono rimasto lì sul divano. Ma Eleonora, la tua dolce metà dov'era? Era a letto. Io mi sono rimasto un po' sul divano. Ho pensato, cazzo, in ciabatte con i vecchi. No, che ciabatte, ma senza che ciabatte. Scena triste. Ho pensato, che cazzo devo fare se mi succede qualcosa? Magari c'è qualcuno che non rimane contento, devo devo provvedere a qualche cosa, qualche piccola cosa la devo fare e voglio fare testamento. Dunque oggi mi sono svegliato, ho mandato due o tre messaggi, però non ho avuto una risposta. Adesso, se qualcuno di voi vuole dare una risposta definitiva su come fare perché abbia una sua validità. Ma perché adesso ti è venuto in mente? Ma per il coronavirus? Adesso, perché uno può crepare, certo, perché cosa secondo te? Per così, ma perché no, mi passa per il cervello? Mamma mia, ho capito, porta nera di primo livello. No, porta nera, sta a casa, tranquillo, non so se hai sentito prima Lisa? Sì, certo, amica, ma certo, più giovane di me, donna. Prendi delle precauzioni, ma non è il motivo per... Allora, io chiamerei quel signore che prima, sai, quello là di... quello sardo, quel Secci, che dice di essere difeso da Taormina. Ma Secci non è un cognome sardo, però. Lo so, che ti devo non dire, così si presenta. Sardo, Secci. Corrado si chiama. Visione, faccio un puttana di enorme. Pronto? Mi puoi richiamare un attimo che sto chiamando dei documenti? Secci, sì, sono Cruciani, come stai? Ciao, mi puoi richiamare fra una mezz'oretta? No, mezz'ora no, dieci minuti. Dai, va benissimo, 5 minuti. Chiameremo tra 5 minuti, 20, 24. Ah no, però è un cognome sardo, perché vuol dire secchi, può derivare da secchi, secchi per l'acqua, ho letto appena adesso, Pazzesco. Marco da Milano, vai Marco, Marco, dimmi. Secchi. Da Roma forse. Sì, facciamo 3 minuti che lo chiamiamo quello, dai Marco, dimmi. Pronto? Dimmi, Marco, Marco. Ciao, Marco. Sono da Roma. Ciao, Marco da Roma, va bene, uguale, dai Marco. Ti volevo consigliare su come fare testamento, Giuseppe. Sì, dimmi, sono un dimmi. Avvocato. Sì, Marco, allora, dimmi. Allora, se sei capace di intendere e di volere, questo però lo chiedo a, a David. Sì, no, penso di sì. Insomma. Sì, okay. Abbastanza. Abbastanza, diciamo. Allora, prendi un foglio di carta e cominci a scrivere le tue disposizioni. Che c'è una figlia, devi lasciare metà del patrimonio a tua figlia, mi raccomando, se no... Se no non è valido, se no non è valido. Se no è un problema dopo, diciamo. Sì, sì, sì. L'altra metà ci puoi fare quello che ti pare. E se uno ancora non è, per esempio, se uno ancora non è divorziato, che cazzo può fare? Diciamo un po' di meno della metà, ecco. Ok, un terzo ci puoi, lo puoi dare. Per esempio lo diamo a Gustavo, a Parenzo. Vabbè, no, ma io per ora no, ma a me basta avere quel quadro di Guttuso, cioè, perché il fatto che il quadro di un pittore comunista sia in una casa di un anarchico fascista, perché potrebbe mi darebbe... no, fascista te lo tieni per te, io ma fascista non è vero, mi dispiacerebbe, no, in alcun modo mi dispiacerebbe che un quadro di un grande pittore comunista finisse lì, appunto, in mani sbagliate. Ma è già finito in mani sbagliate. Vabbè, allora Marco, non ho bisogno di rivenderlo, caro Gottardo, non ho bisogno. Piatto ricco, no, c'hai 10 milioni di euro, no? 300 mila euro, gli dai a Parenzo, ci metti una bella condizione, glieli do a condizione che chiami Mauro da Mantova tutti i giorni e gli faccia due carezze. Potrebbe essere un supplizio da affrontare in modo molto utilitaristico, per 300 mila euro, però non sono messo ancora così male, quindi per ora rifiuto. Io credo, Marco, perché non sia nullo questo testamento olografo, che cosa è che non devo fare? Questo è il punto. Allora, guarda, non devi fare una cosa, ma se dai, che ne so, a Gottardo, per esempio, no? Non devi fare disposizioni, ad esempio, contrarie al buon costume, per esempio. Cioè, non posso dare a una puttana, per esempio, che ne so. Cioè... Magari puoi scrivere, sì, lo do a tizia, però non devi dire che perché è una puttana. Cioè, dunque, non lo posso dare a un bordello in Svizzera. Non puoi dirgli affinché li investa per aprire una casa chiusa, ecco. Diciamo ho capito. Però, non per fatti illeciti. Comunque, certo, la cosa fondamentale che devo fare, ma si può fare, cioè io devo fare un foglio di carta e poi a chi lo consegno sto foglio di carta? Lo metti in tasca, lo metti nel cassetto. No, ma ho capito, ma lo devo dare a qualcuno. Scusa Giuseppe, altrimenti vai dal notaio, paghi, sei al notaio e fa tutto lui. No, vai, d'accordo, ma se io lo do a un avvocato, per esempio, no? A un avvocato, no, vabbè, lo puoi tenere in custodia, sei anche obbligato a darlo al notaio quando crepi. Vabbè, comunque si può fare immediatamente, basta lasciare il 50% a mia figlia. Se dipende se sei sposato o no. E però. Dunque, se non sono divorziato, devo lasciare pure qualche cosa alla persona. Se no gli va comunque. Se no, comunque può essere impugnato. Ragazzi, devo. Può essere impugnato, sì. devo provvedere. Ciao, ciao amico mio, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. I'm living on shattered faith, kind of likes to restrict your breath. Never been a better time than this. Richiamiamo Secci. Cagliaritano, ricordo, 42 anni, ha sbroccato con la polizia mentre lo controllavano. Ha detto che è uno praticamente che non riconosce lo Stato italiano, o comunque riconosce solo l'autorità internazionale. Dice di essere un essere vivente. Questo lo siamo tutti, vai. Beh, sì. Ho finito. Allora, Corrado, mi stanno dando il foglio. Corrado, perché hai fatto questa roba qui? Sono qua con l'ispettore di polizia che mi conosce da una vita, perché io tutti i giorni che faccio beneficenza, era la terza volta che va lì senza mascherina, camminando vicino, sono testimoni. Ma ho capito, ma perché lascia perdere i testimoni. Tu hai detto, ti hanno fermato, sono una persona umana, non faccio parte dello Stato. Unico. Ma che cos'è questo popolo unico? Cos'è? Ragazzi, informati, noi siamo prima, abbiamo i diritti umani. In Italia ormai è una legge privata fatta su aziende. Il codice fiscale che ti viene attribuito non corrisponde ad azienda privata, corrisponde all'azienda privata. Io ho. Ma è lo Stato italiano, non è l'azienda privata. Lo Stato italiano è la Corte Europea dei diritti internazionali umani, la conosce, si chiama sovranazionale. Sì, tu dici che non appartieni allo Stato italiano, questo è il punto. No, io sono un abitante, sono una persona umana. Sì. Io sono un uomo che poi è italiano, certo, che poi fa altro. Quindi io appartengo al diritto internazionale, che è il tribunale più alto. Ma hai detto, hai detto a quelli là. Sei laureato, ho letto in scienze, quello che scienze politiche, sì, ti sei informato. Non conosci il diritto umano? No, sì, d'accordo, però io sono italiano, per cui a me non me ne frega un cazzo di appartenere a una. Ma comunque, al di là di questo, tu ti hanno fermato. La Costituzione, ok, allora ti parlo di Costituzione italiana. No, aspetta quindi, un attimo, aspetta. Andiamo. No, allora, andiamo. Non mi interessa più, non è... No, Secci, aspetta un attimo. No, ma ti hanno fermato, che è successo? Spiegami. Ho brutto figlio di una puttana. No, ma io ti voglio sentire, ti voglio ascoltare, ti sto ascoltando. Scusami, no, ma sono Parenzo. Aspetta, no, sono l'altro, sono Parenzo. Il comandante è un ispettore di polizia, ti sto denunciando per stalking. Sì, va bene. No. La Zanzara. Ciao ragazzi, mai duri come adesso, mai duri come adesso. E voi sapete che io ho depositato nei giorni scorsi una denuncia. Cosa? Quando? Cruciani, non sai un cazzo. Quando Nacho Vidal ha detto come Spider-Man, intendeva la posizione delle dita delle mani. Non sai un cazzo. Sei uno sfigato. Fai il brillante e ti mancano le basi. Cazzo, come Spider-Man, fai veloce. Le mani, la posizione della dita e delle dita delle mani. Questa quarantena ha infuocato mia moglie. Due volte a settimana fisso. Abbiamo sfiorato pure la tripletta. Ammazza, saresti contento te, Cruciani, dopo 15 anni trombare con tua moglie, ti viene un colpo. Però se c'è la moglie figa. Eccolo. Comunque mi stanno divertendo le telefonate di questa sera, devo essere sincero. Allora, Giovanni da Siracusa, vai Giovanni, vai, dimmi. Ciao, dimmi Luciani, tutto. Intanto vi segnalo, scusami Giovanni, che il mitologico Brazzo, il ciclista che anche lui dice di appartenere ad un'entità che non è l'Italia, alle Nazioni Unite, non so a che cosa, all'universo, e dunque non risponde direttamente ai poliziotti, anzi chiede ai poliziotti l'identità, è tornato a uscire. Mi hanno fermato mentre lavoravo, chi è lei? Io sto lavorando, lei mi impedisce di lavorare, mi hanno fatto un verbale, contesto questo verbale, eccetera eccetera. Sentiremo tutto dopo. Giovanni, dimmi. Ciao, no, io volevo parlare del rutto di Sandro da Roma, che è stato ovviamente subito condannato da quel buonista di David Parenzuccio. Sì, che sì, è una condannato. No, buonista. È un atto di no, ma libertà, no, buonista però in questo caso. Tu sei un buonista, sì. Ma qui sì. Non c'è del buonismo, però c'è della maleducazione. Il buonismo è un'altra roba. Tu quando torni a casa il buonismo che fai, c'entra. Pulisci con quando uno rutta, ma quando uno. Ma certo, ma non in pubblico. Cioè, ci sono dei luoghi deputati che si chiamano bagni. Guarda, se il coronavirus ha fatto una cosa buona, ha fatto finire il buonismo. No, no, ma non c'è buonismo qui. C'entra la buona educazione. Cioè, se tu pensi di andare a casa e di scorreggiare il salotto, vuol dire che sei un maleducato tu. Ma perché gli altri. Il maleducato è il tuo pensiero uniforme. Basta. È finito adesso. Ma non è il pensiero unico questo. I Vincenzi De Luca ed è finito il tempo dei pareri. Comunque, se ti piace ruttare a tavola, se ti ma piace certo, ruttare a tavola, cazzo, e fallo. E se i tuoi parenti e amici come sono tutti. Felici così, evviva. E come ma fa, come fa, tutti come un corno. Dopo che pisciamo, ci bagniamo le mutande. Chi se ne frega? No, però vabbè, scusami, io, Giovanni. Però io, francamente, adesso non è invento a ruttare a tavola. Un'immagine terribile. Hai dato un'immagine, ma perché hanno questa immagine? A me dispiace perché non è vero. Sono uscito tante volte a colazione, non si dice pranzo, a colazione con Cruciani, ma non mi risulta. Poi se vuoi rutta e scorreggia a tavola. È finito il tempo dei buonismi. Ma non è buonismo, perché tu Cruciani rutti a tavola. Ci siamo accorti che l'Europa è una merda. Ma cos'è il buonismo? Che il buonismo di Parenzuccio. Però scusami, facciamo. Ma non è il buonismo. Il buonismo riguarda un'altra cosa. Posso chiederti, scusami. Ma no, ma evviva. Ma se tu ti siedi a tavola con la tua nonna, la tua mamma, tua moglie, ti siedi a tavola. No, dico all'ascoltatore, no, non tu. Ma nemmeno lui. Piace sedersi a tavola e scorreggiare quando è a tavola e nessuno gli dice nulla. Siete una famiglia di maiali, se ti posso dire. Siete una famiglia di maiali, ma lo dico con rispetto. Gottardo e Cruciani rutto e non è che è subito buonista. Probabilmente lo faccio Giovanni, scusa, quando quello ieri ha ruttato e secondo me ha ruttato in diretta, abbiamo fatto poi il VAR del rutto. Io non è che nessuno di noi ha pensato che fosse. Vabbè, Parenzo ha detto che ero maleducato. Quando uno parla, se rutta a un certo ma punto. Ma è l'ABC, ma non è il buonismo, non c'entra il buonismo, la Caritas, Sant'Egidio, guarda, non c'entra niente, Cruciani, nulla. Che è finito il tempo dei buonismi, almeno dimmi tu questa cosa. Ho capito, è finito, ma ruttate, che vi devo dire? Sinceri. Amico mio, per me non è mai. Questi sono i danni del crucianesimo. Per me ormai non è mai diretti. Iniziato. Inviti uno a cena a casa e quello. E ci scusi, può farla in bagno? No, ma ormai siamo tutti diretti. E vabbè, sì, evviva. Diretti, continuate. Ma se io invito uno a casa e mi scorreggia in casa, lo mando fuori a calci nel sedere, ti è chiaro? Ma e se lui mi dice, sedere, ma ormai siamo tutti diretti, ma ormai siamo tutti diretti, ma come diretti? Certo, ah, buonista, elite, no elite, ma hai scorreggiato in casa, non è elite. Però fermi tutti, credo che da questo punto di vista Freschero abbia qualcosa da dire, cioè anche lui credo che in questo periodo sia pronto, abbia sentito il rutto di ieri sera e voglia trasformare questo rutto, questo rumore. Arte contemporanea. È pura poesia, naturalmente alla Rai naturalmente avrebbero chiuso tutto questo bacchetto, sì, naturalmente avevo proposto una serata a bassissimo costo che si chiamava appunto Rutto Libero, dove c'era la grande espressione popolare bellissima, il popolo a tavola rutta naturalmente. Allora? Abbiamo scritto questo programma con Paragone, naturalmente, che è un amico del popolo, perché Paragone sta dalla parte del popolo, naturalmente. Sì. E il popolo quando va alle feste popolari rutta e poi anche scorreggia, naturalmente. E la gente da casa decide qual è la migliore, naturalmente. Un programma a bassissimo costo, un programma da servizio pubblico, naturalmente, cioè, che unisce l'Italia la migliore scorreggia o migliore rutto? Da Racalmuto a Bergamo, naturalmente, una grande gara di rutti. Dai, che funziona, Funziona, non lo so. Potrebbe funzionare. Basta sti virologi che dicono oggi il picco. Ma quale picco? Dai, col picco non funziona più alle 18, Borrelli, dai. Allora, che bisognerebbe fare? Alle 18 naturalmente una gara di rutti, alle 18 naturalmente. Dai, che funzionerebbe cioè, più. Tu dici, dai. Alla fine anche per provare la salute delle persone, no? Fino a, se uno è malato, non è malato, sei infettato o no. Una soluzione potrebbe essere quella, appunto, giusto appunto, di sostituire naturalmente il tampone con il rutto liberatorio, naturalmente, per sentire la potenza polmonare. Questo credo che domani lo proporrò, naturalmente, alla RAI. Ma è stato bocciato il primo. Bocciato tutto, naturalmente. Le mie idee contemporanee, naturalmente. Dai. ciao. Allora, intanto un avvocato mi scrive: gentilissimo, siamo a disposizione. Come diceva prima Gottardo, effettivamente, gentilissimo, siamo a disposizione, cordiali saluti. Avvocati dei consumatori mi segnalano, mi scrivono per, evidentemente, per il mio testamento. Buono, c'è positivo, stai è buono, stai è buono. Comunque io mi regolo io che sto buonissimo, cammino certe pirite che faccio sollevo la lamia da casa. Stiamo buoni, grazie a Dio. L'ho chiamato, stai è buono, stai è buono. A ciotta, sa vive. Non ci percote, no? Come a me, non ci metto pana, no? Devo fare ancora di mortisoglio e a tutto è curune, alla virus e a quella di mortisoglio, spulciati. Questa sostiene che sta bene forse perché emette, perché scorreggia, così mi dicono dalla regia. Dalla regia. Mamma. Allora, abbiamo il collegamento della serie, già ci siamo passati ieri naturalmente, ma continuiamo la nostra grande carrellata nel mondo della prostituzione. E nella prostituzione, che ha delle difficoltà, no Gottardo, mi sembra di capire, ha delle grandi difficoltà su tutto il territorio nazionale. Grossissime difficoltà. In Veneto ci sono decine di prostitute che vanno a mangiare alla mensa dei poveri. Così ho letto da qualche parte, vero o non vero non lo so, però sicuramente qualcosa di vero ci deve essere. Quotidiano del gruppo Repubblica, insomma, dovrebbe essere vero. Registrano questo fenomeno incredibile. Allora, Morena Capoccia, la scalda camionisti, è con noi. Buonasera, signora Morena. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come andiamo? Scalda camionisti. Beh, sì, è praticamente. Insomma, diciamo che. È praticamente la regina dei camionisti. Va quasi esclusivamente con i camionisti. In quel di. Non mi ricordo dove, in Umbria, esattamente dove, Morena, vicino? Vabbè, io abito a Spoleto, però giro per il mondo, insomma, dai. Beh, giri per il mondo. Giravo perlomeno, adesso non ti fanno girare più. Ecco, non ho capito, qual è la tua situazione economica, cara Morena? Allora, la mia situazione economica è questa. Praticamente io ho iniziato a fare i film nel 2014. No, ma la situazione economica adesso, col coronavirus, mica la tua situazione. Adesso critichissima, perché io ho due persone anziane che prendono una miseria di pensione. Siamo quasi in quattro a dover mangiare, quindi... Ma tu non guadagni più non guadagni più cazzo, naturalmente, perché la puttana non la fai più. Purtroppo no, perché non te lo permettono. Per cui non ma hai i camionisti provato... continuano a girare. I camionisti allora? Ci stanno, potresti ricevere da. No, allora i camionisti girano, perché pure adesso mi ha chiamato uno: se vuoi rischiare, io sto a Trevi. Ma io non posso andare a rischiare, ma manettano. Bravo, è giusto, non certo, è sbagliato, vedi la responsabilità. Certo. Prenderai il reddito di emergenza. Io lo farei anche, però lui lo farebbe anche, ma il rischio è che se te beccano, so cazzi. No, poi come la paghi, certo, la multa, amica mia? Dai. Ma oltre che la multa, va, è pericoloso. Io le multe ne pago. Ma come ne paghi le multe? Scusa, ma. Mai pagato una multa io in vita mia, mai. Ragazzi, è una cosa incredibile. Vabbè, quello è meglio, più pericoloso ammalarsi, no? È nulla tenente? No, vabbè, a parte gli scherzi, comunque io. Ma non ha chiesto il reddito di cittadinanza? Chieda reddito di cittadinanza. Ma io l'avevo chiesto qualche tempo fa, però io voglio solamente che il discorso del porno diventi legale in Italia. Vabbè, ma quello lasciamo perdere, quello che è, quello che non è. Voglio capire da te adesso come stai a casa, che ti è successo? Cioè... Niente, praticamente so quattro giorni che sto senza corrente, perché mi hanno staccato la corrente. Ma com'è possibile che ti hanno staccato la corrente? Scusa, c'hai due genitori anziani a casa? Sì, però il discorso è mantieni la macchina. Io ogni volta devo fare spesa che devo fare 5 chilometri, la benzina la metto? Mangiato e non mangiare, la bolletta era di 3,50. Il mese scorso, due mesi fa, prima, quando ancora giravo, dovevo andare a San Raffaele a Milano per vedere dovevo fare una visita, che ho un rene un po' incasinato. Pure, fai ancora la puttana con il rene incasinato? Vabbè, ma il rene, la figa funziona, questo pure è vero, diciamo, tecnicamente è così, tecnicamente drammatizziamo, dai, che io già sono esaurita, mamma mia, non ce la faccio più. Ma scusa un attimo, ti hanno staccato la corrente, come fai a casa senza corrente? Purtroppo con due persone anziane, sì, perché la Caritas per tre giorni ci ho parlato e mi ha detto che perché era troppo alta, io so perché io ho la caldaia che non funziona. Ma io voglio capire una cosa, ragazzi, riattaccate la luce a Morena, ma non è che uno può stare in questo periodo senza luce, dai. Beh, su. Io gli ho detto non guardare il fatto che io, perché loro qua pensano, perché sono porno star. Allora, il porno fatto star, è che la porno star, a parte porno attrice, diciamo, porno star. Attrice, o pornostar che sia, però anche se sei pornostar non è che la pornostar di 20 anni fa, il lavoro che fai adesso, cioè, non è pagato come 20 anni fa. No, eh? Ma io voglio capire, ma 350 euro che hai consumato per una bolletta di 350? Perché c'ho lo scaldabagno, la caldaia non mi funziona. Io voglio capire una cosa, voglio capire una cosa bene. Come fa a cucinare anche, scusi, oltre alla luce? Allora lì c'è il gas. Ho cucinato, io oggi ho fatto, guarda, oggi mi sono messa a fare la macedonia. Non hai cucinato, non riesci a cucinare, ovviamente. Come fai? No, come faccio? Vabbè, c'è il gas, sì, senza. No, vabbè, e quando è buio? Gas, sì, con le candele, ma come fa? Non puoi neanche leggere con le candele, che fa? Nome di candela, romanticismo, no? Una roba incredibile. Io voglio capire una cosa, e dunque, quanti camionisti ti chiamano per scopare? Ma guarda, uno anche poco fa mi ha chiamato. Ma quello che voleva andare anche Trevi. Il telefono deve ricaricarlo, però, scusi, eh. Ma la io batteria lo del telefono. In macchina, fortuna che ho il caricabatterie in macchina. Ah. Scusa, ma secondo te di chi è la colpa di tutto questo casino? Tanto per capire, Morena. Allora, la colpa, diciamo... E gli stavo spiegando, infatti, che praticamente io ho problemi economici da più di 10 anni. Poi ho iniziato a fare la pornattrice, no? No, ma la colpa di questa situazione del coronavirus, di chi è? Ma secondo me è tutto sto 4G, 5G, tutte queste radiazioni, sì, sì, secondo me sì. Le radiazioni? 5G. 5G. Ci mancava il 5G. Beh, ma scusate, avete visto... Guarda, posso trovare un po'... Posso trovare sì, una. Gli uccellini che hanno fatto tutto quel casino a Milano che sbattono si vede. Ma secondo te. Secondo me il problema è del punto G, non del 5G. No, gli uccellini, tu occupati però di altri uccelli, no? Degli uccellini che sbattono sui cosi. Allora, però vedete, la signora Morena la pensa come quel signore ieri sera che poi ci ha attaccato. Perché così è verità. Ma quale verità? E la pensi come così quel signore là, il Greg che ieri abbiamo chiamato e che adesso è praticamente furibondo contro di noi, ma sti grandissimi cazzi, la pensa esattamente come Morena, il 5G, dai ragazzi, ma non diciamo cazzate, il 5G. Comunque la crisi della prostituzione si avverte anche nella prostituzione di strada, nella prostituzione con i camionisti, nella prostituzione allora, con... Allora, la prostituzione già c'era la crisi già... Cioè il tuo lavoro è finito ormai, morto, finito, chissà quando potrei... Vabbè, già era finito da un bel po'. Ma i camionisti poi, col virus ancora peggio. Lo so, amica mia. Vabbè, ciao, ciao, ciao, vale. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Giacomo da Milano, vai Giacomo, dimmi. Ciao, ciao a tutti. No, io ho chiamato per parenti, per chiedergli una cosa. Se aveva visto la notizia del ministro israeliano Lippmann. Sì, assolutamente. Non so se ne avete già parlato. Ma, sì. Insomma, aveva detto che il Covid era un castigo divino per l'omosessualità. Sì, l'abbiamo detto in apertura. E poi si è ammalato. E allora? Scusate, si vabbè, ma un coglione, Giacomo, è semplicemente un coglione quello là. I coglioni ci sono ovunque, come sono dimostra. Anche nel grande Mossad, quindi i coglioni. Ma sì, ce l'hanno dei coglioni anche al Mossad. Ma che c'entra? Quello saranno degli ebrei stupidi, non è sono un mica ministro, tutti intelligenti. È un ministro della sanità, un ultraortodosso probabilmente, certo. Che ha detto una puttanata. È un ultraortodosso, che ha detto una puttanata che il virus è Dio che si è voluto vendicare. Le follie dell'omosessualità in tutti i mondi. Certo, voglio dire, il fatto che sia un ministro in un altro paese, un ministro così non potrebbe nemmeno diventare ministro. Ma infatti uno così. Hanno chiesto le sue dimissioni. Beh, attenzione, abbiamo avuto Toninelli ma che c'entra? Toninelli mica dice nel grande Israele c'è. Cioè. Beh ragazzi, diciamo ma no, hanno chiesto le sue dimissioni infatti. Ma te credo, ma non so manco se si è dimesso. Certo, sarebbe anche giusto. Ma comunque. No, ma perché ultimamente Parenzo mi sembrava che stesse un po' smettendo di fare il suo lavoro. Parenzo, scusa, ma qual è il tuo lavoro? È giornalista, giusto? Sì, ma non ho capito, ma guarda sì, che Parenzo non è d'accordo, cioè non è che è d'accordo con questo qua. No, ma credo che non sono d'accordo in alcun modo. Un pazzo scatenato. Michael, anzi, provincia di Monza, vai Michael. Sono d'accordo con le sue dimissioni, ma non conto un cazzo lì, quindi. Mi senti? Sì, dimmi. Sì, allora ho sentito che sei incazzato contro l'OMS, giusto? Ma non è che sono incazzato, ragazzi, non si possono, cioè l'OMS a parte che ne ha combinati di tutti i colori anche in questa crisi dicendo delle cose, poi dicendone altre. Adesso dice che le mascherine non vanno messe, non è che l'ha detto proprio così, bene, insomma, non sono è sicure, eccetera. Per me era solo per dirti che Tedros, quello che sentiamo ogni sera parlare dall'OMS, questo tizio è un etiopiano, ha lavorato per Tedros, quello che sentiamo, il direttore l'etiope, ecco, il direttore generale, questo era primo ministero dell'estero, aspetta un attimo in Etiopia, sì, aspetta un secondo, aspetta. Allora, siamo in diretta per annunciare la tua presenza domani. Maurizia Paradiso, eccola qui. Maurizia! Amici della Snoces, la Paradiso in quarantena. Che stai facendo? Come in quarantena, stai? Maurizia, che stai facendo? Allora, non posso più menarvelo perché non ce l'ho più. Però in compenso, vabbè, voi non vi astenete dalla lotta e siete dei gran figli e una mignotta. Sì, da... su tutti, scusami, i social, ricorda, avete i prepuzzi che non fanno testo. Vabbè, ricorda quel, cioè, motto straordinario quando... tenete il guinzaglio e il pisellino, carini, perché state dando i numeri. Allora, domani ricorda... domani vi spiego il perché. Siete completamente quando eravamo impazziti. Insieme... avete il prepuzio impazzito. Vabbè. Cara... Scusami, quando eravamo a Tele Lombardia, sì, c'era quel motto straordinario che diceva hop hop hop. Aspetta un attimo, non senti David. Allora ti voglio dire una cosa, cara Maurizia. Sì. Spero che tu stia bene innanzitutto. Sei in casa, sì, sì. Sei in casa barricata, giusto? Sei in casa Sono in casa con la mascherina, a differenza di quel. No, in casa con la mascherina, con la che in casa con la mascherina non c'è bisogno. Per cui ti chiamo domani e mi spieghi tutto. Soprattutto a differenza di quel signore della Protezione Civile che non la mette perché dice che mantiene la distanza. Vabbè, ma lascia perdere. Domani mi spieghi tutto, soprattutto come stai vivendo sessualmente questa situazione, perché qualche attività meno dalla mattina alla sera. Come fanno tutti gli uomini. Ma non ce l'hai, che ti meni? Quando ce l'avevo me ne menavo una solo. Da quando l'ho trasferito nel cervello non ne ho più uno, ne ho migliaia. Ciao. Allora ragazzi, Michael dalla provincia di Monza e Brianza vuole parlare di qualche cosa. Giacomo da Milano non c'è più. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.